Aspetta che sto ascoltando una cosa. Arrivatoti. Veglia. Lo stiamo guardando. Sto guardando anche questo Cobra 29 LTD, ma mi sembra che è senza FM, vabbè, ma è piccolino, insomma, è un po' così. Vabbè, ma di quella roba lì meglio ma comprarla, no, quella se si busca poco va bene, ma a comprare a pagare un bene, no, ma questa era giusto per vedere cosa è, cosa non è, come è fatto, perché ce ne sono dall'America, ma sono fatto a come si chiama questo dell'X350, per dire, solo lì è un amplificatore, ma un altro stavo guardando, è l'X, non mi ricordo, che ha lo schermo quadrato bello, più di 150, anche 200 watt solo l'apparato, ma è un blocchetto, costa quanto una stazione base. L'altro giorno io ho visto da quello vicino alla piazzetta, quello usato, che c'è, lì, ho visto qualcosa, roba vecchia proprio, roba vecchia, e le ho chiesto, ma non te lo fa provare, non te lo fa vedere se accende, niente, ha detto, cioè, a me me l'hanno dato così e così se lo prendo, ho detto, ma se è bruciato cosa me ne faccio? Cioè, quello è un rischio che ho fatto anche io, non vai a cagare. Vai, ma cuidate, non ve lo dico. L'ho detto, se fosse stato 10 euro, ma qualcuno ci butto 10 euro, ma cazzo, quello comincia a buttarci 60, 70 euro, cazzo, da fastidio. Ma quale stai dicendo, fa quello che c'è all'ingresso lì della piazzetta? E allora? Cauca. No, vero mio, il telefono continuo, stavo messaggiando, mi stavo dando una sistemata. Tizio è un altro, un ganimoso, peggio di l'altro che vai a gare produttore. Quello a me un giorno c'era già fatto. La stessa cosa che gli hai detto tu, c'era un radione grande che mi piaceva, che praticamente aveva anche le bande valche. Radione, non sai quei radioni che si usavano, 50 euro. Ho detto, ma me lo fa vedere acceso almeno, se funziona, se funziona. No, è così, me l'hanno dato, è così, io sì, ma non mi sto dicendo che lì me lo deve far vedere acceso, perché se io lo devo comprare, voglio sapere se accende, se funziona, se no sto comprando la scatola chiusa, arrivo a casa, non funziona, lì non me lo cambia più, così è. La giubilata è meglio che andata. Sì, e beh, cosa puoi fare? Quella della cosa, andatine, non puoi fare. Se mettere la vergo, se funziona, non dico che si mostrato a che di carrozzeria hai dato tutto quanto un buffo mare che si è dovuto alla fine che va via, però erano un bel bici e mi pare di vedere uno che aveva 23 canali e tutti si buono preso che mi fate i due attesi ma pigliare ci tassi via e tassi di due, no? Infatti è così, mentre l'altro che c'era a fianco, se ti ricordi, no, quello proprio il mercatino usato, napolitano, quello invece la roba, c'è un bancone, ti riprova, lei le accende, capito? Quello lì sì, che adesso è dove c'è Macciuculi, all'ingresso, praticamente dove sia l'ingresso per Città Mercato. Ma non ne ha più, non ha più niente, credo. Non ha più niente quello. Sono andato la settimana scorsa, un venerdì sono andato, a vedere se avevo qualche cosa del genere, per vedere un pochino, non ha più niente. Vedi, magari non ne stanno più portando, no, lì aveva dei portatili, della roba così, però ti riprovava, capito? Ti riprovava. Invece chi c'è nulla, questo lo prendi così o se no niente, ti dà dire in culo. Ma ti pare che, ma cos'è? È scatola chiusa, no. No, l'altro sto dicendo io, del Cobra, non del Cobra, del Galaxy, di X, cazzo, non mi ricordo la sigla, bello, americano, ma costa un po' più di soldi quello lì. che ha lo sweeper quadrato grande, non so se ce l'è presente, ha lo sweeper grande quanto il Rose Metrovattimetro del H201, quindi, per darti un'idea. Sempre con lineare sotto la pancia, la versione da 200 watt. Ne fanno di tre tipi, mi sembra che ne fa uno da 45 watt, uno da 150 e l'altro da 200 watt, però non so come sia, io lo dico frontale, è un blocchetto, è bellissimo, però costa un pacco di soldi, in dollari mi sembra venga a costare intorno ai 500 o 450 dollari. Sì, qual è quello nero? Sì, è nero e può avere. Ehi, andai in testa. Sì, sì, sì, sì. È uguale al Cobra, quello solo che lo fa la Galaxy. Quello me l'aveva comprato Sandro. Sandro il produttore, Sandro Tigre, ma aveva anche fatto provare, bellissima radio. Molto, molto bella. È simile al Cobra. Ma te l'ho detto, costa una barca di soldi. Quando l'ho preso io il Cobra, mi costava in euro intorno ai 650 euro, una cosa del genere, tanti anni fa, quindi costano un sacco di soldi quelli. Capito, Efra? E così chi ci devi avere Porto Torres, tu li butti la roba, no? Per dire a vendere, è capitato, a me è capitato anche ad un'altra persona, tu gliela dai, ti fa il foglio, qui e là, pattuisci quello che devi pattuire, allora poi quando ce la vendi, invece di darti quello che hai pattuito, come sta Bugganni, le tasse, Bugganni, la permanenza che c'è stata lì, già, alla fine cazzo non ti tocca nulla. Questa gente vive così, vive. Noi glieli portiamo perché a volte ci conviene. Da voi da Grigianesi non ti la fini nulla, poi andiamo a comprarlo e costa un luce, scusa, perché trovate nei bagagli un bel. Maria, un alimentatore della Kevon ci aveva, mi sembra che sono 20-25 ampere della linea Kevon. Maria, guardate che sono andato e lo voleva 80 euro. Sono andato e gli ho detto, ma lo accende per cortesia? No, mettilo. Era un po' burruginoso, si vedeva che era. A me aveva già deva, lì in caffè cantina, era anche lungo. Allora dice, no, così è arrivato così di fatto. Ma così è, te lo giro. E mi sono andato. Sì, sì, un PS430 era, sì, sì. E noi, anche tu, abbiamo il PS50. Quello è il PS430, quello da 20 ampere, non da 25. Quello da 30 è quello che abbiamo noi. Il PS430, sì, tutto ruggiroso, tutto, anche quello lo stesso, l'ho visto. No, per me non accenderlo, per vedere col tester se arriva l'alimentazione dietro, no? Perché dietro c'ha quelle due viti dove puoi inserire altre due cavettini per un baracchino, perché poi c'ha l'attacco tempo del diretto. Nuda, non me l'ha fatto provare, nuda, infatti non ci sono più andato. Infatti, io gli ho detto, io c'avevo il testo in macchina, c'avevo, no, perché l'avevo già visto. Ho detto, mi porto il testo e guardo se mi dà la tensione giusta. E gli ho detto, ma attacca la corrente? No, non si può, come non si può? E io devo comprare così. E così. E poi la signora mi ha detto, dice guardi che poi una volta fuori da qua non abbiamo più responsabilità, vero? Sì. E allora bene di Lorento, così ve l'hai tutta giù. Ma che cazzo di discorsi fa questa gente? Non ho capito, come che io vado a comprare una macchina usata, lascia perdere nuova, una macchina usata, io ho preso tante macchine usate, e cazzo l'ho sempre provata, no? Addirittura andiamo a farla vedere al mio meccanico di fiducia per vedere se la macchina è a posto, eccetera. Se noi ti compareggio la macchina, fosso 200 metri e me ne vado la motore in terra, o risportello in terra, o si blocca di un tutto. No, capito? Questi vogliono vendere la cosa senza fartela provare. Magna dira! Infatti, oppure vai a comprare la macchina e ti dici no, aspetta che gliela togliamo noi fuori, mettiamo con le pinte e andiamo a fare il motore con il motore. Io lo già che quanto abbiamo fatto visto che ce lo pegamo lui giusto, no? Si dice di sosso perché si scherzava quando aveva fatto la ziminea, un caminetto bello che aveva tutto finito. E della Trento mantenendolo, dice a me non mi paghi, esci a fuori, no paga ma vada, poi esci, così che andava a fare via le dinà, e esci a crollava tutta la seminea. E allora, esci a questa dinà era buttito. vabbè, avanti te. No, stavo cercando quel Galaxy, che è bello, è nero, però americano, è un bel pezzo. Galaxy DX, non mi ricordo perché non è come il 595, è un po' più spesso, un po' più robusto, costa un po' più su, di quello è bello, e quello è più una stazione base, dai, perché avendo 200 watt, insomma, a cosa, è più una HF, dai, che è un baracchino, però secondo me con quei soldi lì compri una linea. È una pazzia oggi come oggi comprare, è bello sì comprare i baracchini vintage, avere qualcosa vintage, ma è una pazzia comprare un baracchino del genere, è una pazzia, il semplice fatto che sì lo usi, ma come lo usi, dove lo usi, con chi lo usi, il discorso è sempre quello. Io quando l'ho preso, quello l'aveva comprato, se quel modello, comunque la versione è da 200 watt perché me l'aveva portato qua Sandro Tigre di Paolo Torres, me l'aveva portato qua a provare, bellissima radio, io l'avevo attaccato al PS50, alla massima potenza me lo sedeva, allora ho dovuto attaccare al Proxer da 60A, una potenza allucinante, e li dà tutti i watt, li dà tutti, è quello nero con la cromatura e poi sotto il bello grande, più grande del Magnum, molto bello, molto spesso, alto, e sotto c'è praticamente un lineare sotto la pancia, capisci? Simile al Cobra, al GTL DX, GTL 200 DX, però quello è ancora più grande. No, ma io non parlavo di vintage, io parlavo di radio recenti, radio belle, radio americane che utilizzano loro, molte volte mi guardo anche i filmati, però in inglese. Fanno capire i watt, che ci sono anche delle modifiche da fare per le funzioni di banda e quant'altro, però per effetto è una radio che è bella averla al momento, se c'è gente, se no ce l'hai a soprammobile e basta, quello che faccio, vabbè dai, giochiamoci con quelle che abbiamo. In avanza dei burri, no io non sto dicendo che è un vintage quello, ho detto spendere quattrini in queste radio così non conviene più, conviene spendere 2 lire in radio vintage, capito? Che te le tieni a collezione, le prove, le usi eccetera, ma modifiche di bande, cazzo c'ha 7 bande, perlomeno il Cobra c'ha 7 bande, dall'A alla G, quindi cosa, ancora bande voi? Il bar sia 400 canali, 460 canali, cosa vanno bene, vabbè, è un bel soldi costano i baracchini, così di quella cosa lì, con quei soldi mi compro un HF, se tu pensi che io 756 avevo pagato 600 euro da lo sa da chi, Franco, quindi, ma faccio un HF, però non faccio un baracchino da Baidamino, vai fra. Certo. L'altro giorno stavo guardando e ho visto i Gala che c'ho Turlecco, alla faccia del vintage, del Tibale di Biasi, ma 250, 300, se ne era uno 450 con il microfono, un MBP5 e più un lineareto da 100 watt. Ma tu non ci sono macchie, con che si dinaggi tu mi ragionerei dal biglio. Io il Galaxy Saturneco, il Galaxy base, il Galaxy Saturneco Turbo, la versione da 100 watt, l'avevo comprata, ma non era, praticamente l'ho comprata però perché mi avevano detto fatto di comprarla che poi la dovevo dare, se no io non l'avrei mai comprato. E la pagai 280 euro, capito? La pagai 280 euro fra. Il Galaxy, il prezzo del Saturn Echo del Galaxy base in ordine è 200 euro. Poi c'è chi lo vende a 250 e c'è chi lo regala, come Antonello, che si l'ha venduto a 150 euro. Da Taiseco. 150 è un po' poco, ma 200 almeno va bene. Il Galaxy Saturn, il turbo se lo vale almeno 250-300 euro, se lo vale, perché c'ha 100 watt quello lì, c'ha gli stessi watt di un HF, c'ha. Però un Saturn Echo non vale la pena. Sono belle radio, veramente. Io penso che il Saturn Echo, per quanto riguarda i baracchini, sia il top, perché è un base, perché è bello, fa tutto, ha tutte le sue caratteristiche tecniche ed è bello anche, ma è un barrasone, cioè deve avere spazio tantissimo. Io ce l'avevo e l'avevo venduto su internet, ma lascia Massimiliano. Però ti dico che è un bel baracchino, per chi vuole usare i baracchini, dimmi chi c'è che ti piace. Io posso prenderne uno ogni 10 minuti, attaccarlo, non mi trovo e non li voglio manco vedere, perché li ho provati tutti quelli che ho provato, mica li ho lasciati in mezzo alle balle, li ho presi e li ho rimessi a posto. Quelli che dovevo restituire al proprietario li ho restituiti, perché ce n'erano che non erano miei, però non mi piace. Io se non faccio questa radio non riesco a modulare fra, dimmi chi sono voi. Comunque a parità di Galaxy preferisco una radio più piccola, tipo tutto, ho il Corvo Super per una cosa del genere, che ha le stesse cose del Galaxy Saturn Echo. Sono d'accordissimo con te, uno per la misura, uno per lo spazio, uno per tutto. Guarda che tutto è Galaxy, non è che Ciamba Nuda, il Typhoon 2 è Galaxy, sono ottimi baracchini, e se poi sono Colt e sono modificati, se non mette il culo al Galaxy Saturn Echo, anche perché se tu non lo vuoi usare con l'Echo chiudi, ma una volta che è modificato c'è una modulazione. Guarda qui Massimiliano, che lui non entra con l'Echo, lo tiene chiuso, perché c'è una radio, sembra che stia usando un microfono preamplificato. Sono d'accordo con te, e c'è una misura standard di un baracchino, non che tu gatto di barragione in mezzo alle balle. Lo so, ma perché metto un po' di legna, sennò si spegne il fuoco. Non mettere legna bagnata, compreso io, o fra. Lascia perdere noi che ci abbiamo a posto, come te, Mattino già c'ha il suo angolino, il suo coso, io ho la mia stanza come c'hai tu, il tuo posto, quindi posso fare i suoi biasi, io ne ho tolta una base, se io metto l'altra base come era prima, posso mettere 50 baracchini, compresi anche basi, uno in antallasco, ma è a fa cosa? Sì, e voi fatemi gli assesi ogni addanto. Però non ne fai niente, perché intanto se per un uno devi modulare. Quando moduli con uno non moduli con l'altro. Cioè, a meno che non vai a antenne separate. Antenne separate, io ti ripeto, c'ho la T230 che ha tre ingressi di antenna, e c'è il 430, il 440 e poi c'è un'altra, c'è? Al 780, basta. Cioè quelli sulla T230, quelle uso, spengo una, come te accendo l'altra, ma ce li ho tutte e tre davanti, e sono tutte e tre HF però, alla fin fine. E io se non ho queste non so modulare, a me il baracchino fa, saranno belli, saranno quello che vuoi, e oramai sono abituato da un secolo a parlare con queste radio, io senza queste radio non so come vi dà. Sì, ma io non è che, io sono, ho sempre modulato con queste radio qua, ho modulato, quando non ce l'avevo all'inizio, modulavo col baracchino, ma poi mi sono preso quello e il baracchino si è giubussiato a basso, ce li ho qua tutti gli appesi, però non li accendo neanche, ogni tanto sì, li accendo, ci modulo. E certo bisogna accenderli, e io te l'ho detto come faccio. Ogni tanto mazza, c'è sempre, qui c'ho di culo, un cavetto unico dove quello a tre, non spinetta a tre, che c'hanno più o meno tutti quell'attacco lì, lo lascio sempre attaccato, ne prendo uno, lo aggancio e attacco l'antenna, basta. Però è giusto che si usino. E figurati tu, io iniziato a modulare con questi quando è uscito il primo dell'attivo praticamente, il 430, l'ho comprato a Mario Attari, quindi ci sto vedendo dell'89-90, quindi come faccio a staccarmi da una radio del genere? Perché? Perché ti consente di modulare tranquillo e sereno, senza attaccarli nulla, i suoi 20 watt, lo vuoi portare a 100, lo porti a 100, basta, senza stare con tutti i ghitli goji, capito? Ho conservato anche il DAC, ce l'avevo in mezzo ai piedi, di nuovo l'avevo messo per tenerlo acceso, la carina l'ha già giubilata e ne ha giubugato, sotto tutto biuvaro, tutto brutto, tutto, vai, buca se tutto, cosa mi fai? Io oggi ho tutto pulito, ho tutto pulito, spolverato sotto, sopra e via. E ho già fatto mezzo lucido d'oro. Allora provo su blocco per la lucidità. Ma io lo faccio ogni settimana, vabbè ti mando la foto dei ricavi, gli arrivi i rubatoni. Ti vuoi vedere? Da sotto mi dà, che entrano sotto la scrivania. Tu renditi conto, io voglio citare con tutti che si gavano in mezzo alle bene, quelli non ci vedono, e quelli non ci vedono. Immaginati tu cosa la giuri fa. Ma buca di tutto, basta una radio e buca. Sì, vabbè, i capi quando sono ben nascosti, cioè non si vedono. Brutto è quando ce li hai sempre in mezzo ai piedi, ce li hai, allora sì, da un malattino all'altro, bello uno scappare e si vedono solo i baracchini e tutti i cavi dietro, è il posto per passare dietro. No, no, io quella che non potevo passare dietro la finestra, sì, però a volte toccavo le radio, quindi una base ne l'ho tolta, non serve più a niente. Vedete, chi si arrivi in Adredo la scrivania, guarda cosa entra, non si vede niente, non si vede niente, non è per terra, nessuna parte. Però guarda l'immaculata dei gavi che vi so, di tutti i radio collegati, ancora una giù di buoni di gavi, ma no, attennante. Un beso, aspetta, vabbè, tu gli avevi un aggancio, i cavi ce l'avevi a un commutatore specifico, ce l'avevi, non è che ne avevi sparsi radio per radio. No, lì ci sono cavi elettrici, poi ti volto la sammaturata, chi si entra da roba fuori, a me lo sento da roba fuori, a me lo sento da roba fuori, ti mando anche questa. Cioè, quelli sono specifici per alimentare le radio, per alimentare le radio, poi tutti i cavi che entrano nella finestra, quelli sono altri, quelli sono delle antenne, quelli sono delle antenne, è un'altra cosa, lì c'è proprio alimentazione, quella è alimentazione, cioè è una cosa impressionante che già vivo per questa cosa, e ti dico che fortunatamente questa stanza è la mia, non c'entra nessuno, non me ne ha fotte nulla. Non c'è boh fa una cosa del genere, cosa lascia perdere fra. Uno ce n'è praticamente le antenne, ma tutti gli altri sono elettrici, sono cavi dei rotori, sono cavi del commutatore elettronico, sono cavi, sono tutti cavi di Sefini, cosa devi fare? Che cavolo? Beh, hai staccato la finestra per mettere i cavi di discesa dell'antenna. Ma lo faccio entrare, il buco sfascio. C'è la stecca in alluminio e l'ho segata, l'ho fatta passare in mezzo, poi c'è il tubo fuori in facciata, praticamente un collegato grosso da due pollici, dove entrano tutti lì e scendono dal buco del pluviale. C'è un lavoraccio, io ogni volta che devo fare qualche lavoro devo usare l'autoscala perché non posso fare altro. È un hobby che cioè, è diventato una cosa allucinante, fra, ma sapete. Adesso mi piace il commutatore di antenna, però come si dice, al contrario di come dovrebbe funzionare, cioè un'antenna per questo apparato, bene qua. Certo Luigi, l'ho detto anche l'altra volta a chi l'ho detto, non mi ricordo di cosa stavamo parlando, forse con Giulio, di queste cose, certo, il commutatore lo puoi usare o con un'antenna per tanti baracchini o singolo per commutare le antenne, e certo, al contrario l'hai girato. Stavo pensando, che c'ho io? io Rudy, il dottore, l'antenna direttiva, faccio tutto, ma non ho giocato il piattamento. Oh, un attimo, vai, volevo salutare che è venuta mia moglie, dobbiamo uscire un attimino. Cioè, a più tardi, dai, ciao, non proseguo. Va bene, ciao Fra, buona passeggiata, buon tutto. Ciao Fra, ci aggiorniamo più tardi, vai. Io avevo il tattino. Faceva radio, ho fatto la giornata brutta, poi mi sistemo il cane e poi TV a tutta andare che verrà battita. Abbiamo già ordinato le pizze stasera e ci rimaniamo per la partita. Sicuramente verrà anche il Sciugavo e Bugnetta e Mario Rio. Sì, sì, sì, lo puoi fare tranquillamente. Se ce l'hai a 4, unico ingresso, 4 spezzoni a 4 baracchini. Ok, ti ricordo che non è che li puoi tenere tutti accesi, devono essere spenti perché altrimenti li sfasci perché l'antenna ti entra diretta. Lo puoi fare tranquillamente, no, non succede niente. Buon commutatore però, non liscio della ZG. No, no, ce l'ho quello. Io l'avevo pagato anche un po' di soldi per poterlo fare con le antenne, con la direttiva e tutto qua. Della Meritron, e invece questo qua è un buon commutatore che mi ha prestato Walter, che faccio l'entrata dell'antenna con 4 spezzoni, con vari baracchini che sto già utilizzando, sono per passare tac, tac, tac, tac, invece così utilizzo uno, veramente ci sono 2 commutatori di antenna che sto utilizzando, uno che va diretto al Kenwood, e l'altro invece che mi commuta l'antenna all'altro commutatore per poter utilizzare le altre radio. Si tratta solo di ricordarsi in che posizione è la radio, anche se ormai è a memoria, antenna 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi so cosa fare per poter utilizzare. Se ti sbagli è un casino, perché la radiofrequenza giustamente ti fa scelantur. Io ho la T230 e la Kenwood dove c'è collegato l'ingresso della Mantova e commuto, c'ha tre posizioni, commuto l'1, il 430, il 2, il 440 e il 3, il 780, basta, quello per quanto riguarda le radio, mentre sull'HF che uso, quello della ICOM, c'è quello della Meritron, che c'è nell'1 c'è l'antenna monobanda dei 10 metri, perché c'è scritto 10 metri, lì ci sono le cose che si illuminano e ti indica l'antenna, quello che c'ho io. Nel 2 c'è quella dei 40 diretta, nel 3 c'è 10, 15 e 20, nel 4 c'è quella dei 6 metri, nel 5 c'è quella degli 80. Però quella è solo esclusivamente quello della Meritron, che già lo sai come funziona, io giù c'ho il control box e commuto da lì, però il relè è sopra, no? Scende un capo unico collegato ad una unica radio, però a quella unica radio le posso dare 5 antenne, quella è un'altra cosa, mentre 430 e 440 quelli sono solo il commuto con l'antenna del baracchino, capito? Quello commutatore come stai facendo tu. Ho capito. Ma io volevo fare al contrario, no? La Meritron al contrario. Anziché tu stai dando unica caratta con 5 antenne, io volevo fare unica antenna con 5 apparati. Ma e tu con perché cosa c'hai? La Meritron con l'attacco PL? E allora? No, io no, io ce l'ho sopra il tetto. La scatola dove si attaccano i 5 spezzoni, capito? Praticamente io ho 5 antenne, queste 5 antenne ci sono 5 spezzoni di cavo di H1000 che vanno collegati tutti lì, poi sotto c'è unico cavo di discesa che va attaccato alla radio, io non ne ho, io ho solo il tic tic tic tic, però scatta lassù il mio elettronico, il mio a corrente, l'ha fatto Fabrizio con Maurizio l'impianto. Capito? Scende un cavo celeste fine con mi pare 6 o 7 fili di quelli fini che infatti li aveva saldati Maurizio, No, io il commutatore ce l'ho sopra il petto, a me mi scende un unico cavo, io c'ho solo il commutatore qua e basta. Sì, ho capito, l'ho visto anche, ce l'ho presente. E io lo stesso, ce l'ho conservato pure, però. Ce l'ho nell'armadio, una scatoletta dove attacchi il 50enne e un unico cavo, il cavo che fa la radio, dove puoi mettere il 50enne, capito? Già ce l'ho, anche io, il mio elettronico stesso. Ma non l'ho prestato così, questo è manuale, questo che ho qua sul tavolo. Ma ti ripeto, io non ho la possibilità di avere una stanza dove mettere tutto l'ambaradac, quindi sono accampato qua in salone con una scrivania, un tavolino, quando mi deciderò a fare altre cose, è conservato, non è buttato, capito? Ce l'ho anche io quello lì, quello elettronico, con 5 posizioni di antenne. Sì, questo che c'ho io era di Fabrizio, invece aveva preso quella 8 e a me mi aveva dato quella 5. Con l'impianto l'hanno fatto tutto loro, lui e Maurizio. Sì, lascia perdere, tante cose lui. No, invece, vedi, se tu ti prendi un, se ti cerchi, visto che stai sempre cercando, che costa una stronzata, una T130, o addirittura quel 230, puoi fare da commutatore anche d'antenna, perché fa rollo, trovattimetro, accordatore, commutatore d'antenna, e così inizi a eliminare qualcosa, lo metti in linea e c'hai tutto sotto controllo, come c'ho io, capito? Non conosci la T230? Allora, non è quello che tu usi, il 250? No, 250 è quello elettronico, io c'ho quello manuale, praticamente di linea del 930 e del 940. E del 430, se non mi sbaglio. No, è molto più alto, questo me l'aveva dato Vanni, questo è di linea del 780, amico. Adesso te lo faccio, ti faccio la foto, è di linea del 780, no? Adesso ti mando la foto, è molto più alto. Però ti consente di avere commutatore anche d'antenna e non hai tutti questi commutatori volanti così, capito? Ma tu qua stai dicendo il 230, così è? Yes, 230, ti ho fatto la foto di dove va a linea, no, di quanto è alto, ecco, te la sto mandando. È del 780, del 930, del 940, capito? Forse sì. No, io mi ricordo, sì, questo era il 230, giusto? Sì, questo è il 230, c'è anche il 130 che è leggermente più basso, perché è più basso? Perché era della linea del 120, del 130, dell'8,30, capito? Prima praticamente di fare il 140 è nato il 120 e il 130. La T130 era l'accordatore manuale di linea, poi hanno fatto il 140 ed è nato la T250 che noi conosciamo bene. Sì. Va bene, aspetta un attimo se riesco. Perché io me ne ricordo uno, forse era il 130, no, non è questo. Quello che torna indietro negli anni. Avevo fatto comprare una radio, un 430, a una persona, senza dargli l'accordatore, ti ricordi? Senza l'accordatore, ma stai dicendo a quello grosso, amico nostro? Sì, ti ricordi? Cos'era quello lì? Quella è la T250. Che è praticamente di gira incendiato, come già gatto aveva fatto al 430, e non mi ricordo che fine aveva fatto quella radio. Comunque quello era una T250, no, bravo, quello era la T230, la T230, non 250. Per quello mi ricordavo io, e vabbè, e da quello non sono di tutto io. Il 430? No, il 230, la T230. Io ho avuto la T230, la T250, anche la T130, però poi li avevo venduti. La T250 l'avevo venduto a Benito, quando mi sono disfatto della linea del 140, l'avevo, avevo venduto a pezzi singoli e la T250 io l'avevo venduto a Benito. Cazzo, ti ricordi che poi, se te lo domani faccio io, tanto l'accordatore interno, non mi faccio niente. Esatto, sì, perché noi poi siamo passati al 440 quasi assieme e quindi non ce ne facevamo niente, non me ne facevo niente, cioè va benissimo, sempre attaccato, l'ho volato a lui, è venuto uscendo dal lavoro col camioncino, che era rigoroso a pigliacino, l'avevo svenduto perché gli avevo venduto a 150 euro proprio, se no la valutazione di una T250 è valutata oltre 200 euro. Però lui, un amico, gli ha volato 150 euro, infatti non l'ha mai venduto, io l'ho richiamato poi, no? Lo sai che poi insomma, ha smesso di modulare eccetera, ho detto ridammi la T250, no, non vendo niente, mi ha detto, perché se poi devo riattaccare tutto mi mancano i pezzi, me lo tengo, non mi interessa, perché io la T250 l'avrei attaccato al 430. Sì, no, sento che da poco... perché beh, non è che stai prendendo il tutto, ma no, ce l'ho sempre conservato, no, me lo tengo, è giusto per saperlo, per vedere se insomma se lo stai vendendo, per venderlo un altro me l'avrei preso io, capito? Non è che è detto di no. E tu magari adesso no, però quando sarà forse mi piacerà tutto, però non può imbagliare le onde ancora, quindi ancora niente. Sì, mi ha detto anche a me, un amico Benito, già lo sai, quanti anni lo conosciamo, quindi vabbè, mi è dispiaciuto che ha mollato, comunque è andata così. No, gli ho fatto anche la proposta, gli ho detto se hai intenzione di vendere me lo dici, io ti riprendo tutta la linea completa, 140, T250, MC60 e colonnina, capito? E quella cosa avrei fatto io, tac, se l'avevo cutta direttamente in chiedà e via. Insomma, da meno problemi quello, no? 140, da meno problemi, un baracchino a sintonia continua che puoi lasciare spento anche 3-4 mesi, anche se lo usi non succede niente. E 440 lo devi accendere spesso, anche se no si va la rubuna. E quindi mi sarebbe andata di lusso, invece mi ha detto no, lo sai, te l'avrei dato volentieri, per darlo un altro te l'avrei dato a te, però non vendo niente perché fra un po' dice mi ripiazzerò tutto. Ma non lo so, vabbè, meglio per lui. Ascolta, prova ad andare in USB per provare, mi dici se mi senti, perché non credo che mi senti, se mi senti non mi senti bene, prova. Aspetta che scrivo la memoria, io lo sai, no, ovviamente, aspetta, vai. AM, vai in AM. Ma non fa proprio nulla, non si sente niente. No, io ti sento, ti ho anche centrato bene, però non esce di qua, ancora non esce, boh. Eppure a volte mi ha detto, sì ti sento, basso ma ti sento, boh. Perché magari sei vicino a lui, qua non arrivi per niente, proprio non sento nulla. Peccato veramente, cazzo, peccato. Io l'avevo provato quello, il Rose in banda laterale, una modulazione strepitosa. Quello è l'handicap delle radio, così, messe lì, chiaramente, lui collezionista, ma poi sa, giorno per giorno ci vogliono mesi interi per provare tutte quelle radio, come fai? Lo so, riesci a vedere questa, proviamo l'altra in banda, aspetta che però devo staccare il microfono da qua, vabbè dai, vai su, domani su 10 in sempre USB. Ok. Beh, ma ci sei? Prova, guarda che io sono in AM, vai in AM un attimino. Ah, sei in AM? E ti aspetti, la madonna, cazzo. Ho toccato il Mickey King. mi sei stato all'impicco, e neanche quello esce. No, questo deve uscire, però c'entrami dai, e dopo devi fare un passaggio alto, un po' lungo tu. Prova. Intanto nell'SB non mi va in nuda, quando si modula in banda laterale 27 si modula in un'infoscia bravo, quindi se funziona in USB e in AM è più che sufficiente, va bene. Sì, vabbè, è giusto così per pro tanto questa. Lincoln dovrebbe, però cazzo non ricordo, proprio in Lincoln, no, proviamo il Lincoln, così almeno mi tolgo anche questa soddisfazione. USB. Questo è il microfono normale, microfono normalissimo, l'MC43. Ok, e va bene, modulazione normale e va bene, prova a attaccare il 60. Aspetta che lo devo attaccare dall'altro, perché qua lo sai che io passo sotto la radio. Aspetta un attimo. No, cioè, lì c'è un piedino sbagliato, sull'MC60 c'è un piedino sbagliato, Aspetta, guarda adesso, che ho cambiato da sotto. Adesso va bene, sai perché? Perché non le stai dando l'amplificazione. Quando invece le dai l'amplificazione, invece di aumentartela, te la abbassa. Invece così stai usando microfono normale, da tavolo. Vabbè, ma senza amplificazione però. Tu immaginati che sto parlando a 3 cm dal microfono. Esatto, come ti dico io, è così. C'è un qualcosa che hanno modificato, non si sa per che cosa e per come, che non ti dà la possibilità con l'adattatore di entrare in funzione al circuito di preamplificazione del 60. Boh, a te che cambia di nuovo, dai. No, vabbè, però se ti... Aspetta, se mi dici che va bene questo qua, io questo lo lascio, non è che devo stare lì a cambiare, era una prova che effettivamente mi è venuta da fare perché mi avevi messo la pulce in orecchio tu e niente, volevo solo giocarmi così con il 60 e vedere un pochino come andava, capito? Però quando viene Antonio le faccio controllare nuovamente le connessioni e vediamo un po', che le sta venendo la voglia anche a lui di comprare qualche apparato. Sì, tu Antonio hai già solo per mettere le mani, le fai controllare dal puntale dell'alimentazione, se praticamente corrisponde il puntale di alimentazione che alimenta il circuito di preamplificazione del 60, se corrisponde a quello del baracchino, e vedrai che hanno invertito qualcosa, perché guardati, è strepitosa la modulazione, lascia perdere. Allora se io prendo, porto qua il presidente Lincoln di Franco, con l'adattatore, il mio MC60, tu non ti accorgi se io sto usando il 440, tranquillo, perché io lo usavo e mai nessuno mi ha detto che radio stai usando o hai cambiato radio, era uguale la modulazione. Un attimo che qua stanno per bisticciare. Poi bisogna giocarci la DSL, capito? Perché sennò andiamo bene. Ah, così è, perché uno solo ne ha i computer, i ragazzi non ne hanno, sì? Sì, ce l'hanno, però uno che guarda il video, l'altro che gioca con l'altro computer, io che sono con l'altro computer, poi c'è l'ammasso dei telefonini e quindi è sempre così la cosa. Fatti la fibra, va, io appena nel senso è inutile la faccio qua se poi devo attaccare, appena sono definitivo, fibra e boh. Ormai questo giuro posso attaccare se non mi piace, perché anch'io ho lo stesso problema. Se io ho il computer acceso e c'è anche l'aria, col telefonino, che lei c'ha il telefonino quello, l'SS, se non mi ricordo, della Samsung, si abbassa praticamente il giga e diventa lento. Ma sai cos'è, che adesso sta giocando con un gioco online, no? Quindi sono adesso 5-6 amici che stanno combattendo e lui mi fa laggando praticamente si rallenta il PC e lo fanno fuori, quindi non è al 100%. No, io ho prefatto poc'anzi per dire la verità, aspetta che ho mollato la battuta, alla team, siccome ho fatto il test della velocità DSL, infatti mi dava, scusa un attimino, Nicola, devi rispondere al telefono, e mi dava la una velocità di neanche 3 giga, io però sto pagando per 20, no? Che però 20 non ce l'avrò mai e ne ho 7. Siccome 7 sono la gabbina e dalla gabbina a me c'è un po' di distanza, mi dovrebbero arrivare almeno 4-5 giga, però non ce l'ho mai. Se 5 giga meno male riesco a giocare un po' tutti. Adesso invece mi ha fatto la promozione di addirittura abbassando la bolletta, anziché 20 cos'era? 20, no, va bene, mi ricordo di qualche euro in meno comunque, 3-4 euro in meno, mi danno 20 giga, che però stabili sono 10, quindi mi va più che bene, da 10 a 3 a 4 che sto usando dovrebbe migliorare la cosa. Sì, io così ero con Tiscali, 20 ma me ne arrivavano 10, poi io ho la 3 adesso e funziona bene, però mi pare che ho 5 giga, 4 giga, però di fisso ne ho uno solo, poi siccome c'ho la linea wifi e quindi arrivo anche al salone, allo smart tv, capito? C'ho la tv, smart tv, e quindi arriva anche lì segnale, dietro c'è il pennino con l'antennino e l'altro lo riceve qua dall'impianto di questa stanza, senza video, senza nulla, è comodo, sì, è comodo, se in casa c'è più di uno che usa il telefonino è comodo, se no non ne buchi i beti. Lo so, vabbè, là. Ascolta, io del tempo libero, diciamo stasera, se ne hai voglia, riapro questo apparato e ammasso la radio, Abbassi la potenza della radio? Volevo abbassare la potenza del watt e migliorare la radio se era necessario, però mi devi assistere. Sì, basta che non sia dopo le 8, se no non ti assisto più, perché c'è Ajax e Juventus stasera, c'è la Champion. Penso che ci sia poca gente in giro, soprattutto in radio, capito? Quindi se è prima sì, sono le 6:10, 6:05, se lo vuoi fare lo possiamo fare anche subito, non c'è problema, io sono qua, però non mi declaro dopo le 8, a chi sono con le cuffie attaccate alla televisione. No, dopo le 8, io parlo di adesso, se riesco a trovare i cacciaviti, perché ti ripeto, non sta connesso. Voglio fare una volta per tutte, grazie, io almeno non la tocco più. L'importante è che non va né a peggiorare né a migliorare, cioè deve migliorare, non peggiorare, capito? Ma io penso che di 4 lo puoi abbassare. Se lo abbassi va a migliorare nettamente, anche se, ti ripeto, per me in questa posizione la radio è abbastanza comprensibile, e vabbè, però per avere la comprensibilità totale anche nei confronti dei tuoi vicini, puoi abbassare qualche volta in più e vediamo come si comporta. Se va bene, se non va bene la rimetti com'era, fatti un punto di riferimento, va bene. No, io già sono qua, io mi devi dare un po' di tempo, dai, così metto anche di parte una tre cose per vedere quanto sta andando. Ok, organizzati, quando sei pronto io sono qua. Ti chiamo io, tanto ho prendo ora. Gamma di Rosmetro. Hola, radio. Venga. Come? Ah? Me. Cosa? Me. A chi è? Io sono. Ma c'è altra gente che sta parlando, non si comprendono accidenti. Uno è andato all'altro, giù. Ah, poi tu scendi. Oh, a te sì, così. Musicato. Ascolta, aspetta, prima che tu attacca tutto, poi chiamami. E io. Poi sono musicato. Allora, io sono quasi pronto, però, allora, aspetta, Così vado in saturazione, ok? Vero? Sì. Vediamo. Ora, è così qua? Molto meno, abbassa. Ora, 1, 2, 3, aspetta, Ora, 1, 2, 3, e adesso? Così va bene. Quanti watt le stai dando? Allora, adesso ne ha 7, quasi 10 watt. Voglio portarlo, aspetta, aumento tutto, lo voglio portare a 10 se riesco, Mi dici se va in saturazione o meno, aspetta. Allora, così sono 10 a portante fissa, guarda se va in saturazione. No, ma li devi aumentare o abbassare? Erano 20, adesso li ho portati a 10. Aspetta che lo porto a massima regolazione, diciamo, là. Ora, guarda se è in saturazione, ora. No, così no. Allora, aspetta un attimino, che mettiamo il microfono in posizione. Guarda un po', ora, sono 10, vediamo. Stazionamento. Ora, però. Allora, massimo picco va a 15 watt, però lui sta modulando in 10 watt. No, attorno una via di mezzo, sempre a riferimento ai tuoi vicini, mettilo a 8 watt, sì. 8 watt, tanto non ti cambia niente, 8 watt perché 10. No, quello lo voglio fare così, guarda, manualmente. Allora, così 10 watt, guarda, abbasso, posso abbassare, guarda, vedi, questi sono 5 watt, modulati vai a 8 watt, quindi va più che bene così anche. Se proprio voglio toccare il picco massimo, al limite ora faccio così e sono 10 watt. 10 watt a manetta. Ora 10 watt. Però dal cursore, capito? Dal pomello. Ok, allora a 8 watt, hai praticamente dei picchi di modulazione che ti portano su il segnale al massimo e la modulazione va molto meglio. Quelli sono 8 watt, guarda, ora, non si vede dal wattmetro perché rimane quasi fisso. E quindi vedi, Berti, non cambia niente, però la modulazione allo stesso tempo migliora. Ma dico, devo abbassare ancora, secondo te? No, per me va bene così. Va bene così, è chiara la modulazione. Aspetta, faccio un'ultima prova, così almeno non l'apro più. Ora. Ecco qua. Guarda così, si è cambiato, Claudio. Sì, così è leggermente satura, non molto, però c'è appena appena. Ok, ora devo abbassare. Ora. Ecco qua. Picchi massimi a 10 watt. Migliorato? Ancora appena appena devi abbassare. Okay. Ora, e adesso guarda un po'. Ecco, adesso è perfetta. Tu vuoi la perfezione, così la devi usare, con questi watt. Ok, vuoi provare la LC della radio? La LC? ALC. Poi esce a vedere, allora, aspetta che il buon Giulio a me stamattina mi ha mandato, allora, VR14 della modulazione, il 13 del power, quello che noi stavamo, cos'era questo final bias? No, cazzo, non toccare il bias che te ne vai fuori frequenza, No, questo, direzione, carrier, power, smitter, trasmissione, no. Allora, VR13 è M in power, quindi la potenza del quello che abbiamo toccato noi. Devo toccare quello 14. Il 14 l'ha detto Giulio, che cos'è? La LC, praticamente il microprocessore, dai, per aumentare la radio. Esatto, quello per aumentare la radio, in maniera tale che abbia qualche spinta in più la radio, perché se io metto, guarda, se io la metto in sinistra, Mette, la bassa molto. Io la disinserisco e invece l'aumenta, giusto? Attento, che ci sono alcune radio che hanno il pomellino al contrario, Vabbè, lascia perdere quello. La radio la posso alzare o abbassare, secondo te? Per me così è fortissima. Però, proviamo. Dalle un girettino a sollevare, vediamo cosa succede. Magari schiarisce anche la modulazione. Tieni presente che poi va chiuso e cambia, Allora, non riesco a capire se sto alzando o abbassando. Aspetta, Allora, guarda. L'ho abbassata o l'ho aumentata? Non ha cambiato niente. Bene, guarda un attimino. Sto sempre girando, Abbassata o aumentata? Non ha cambiato niente. Allora, ancora così, abbassato o aumentato, 1, 2, 3. Non cambia niente, evidentemente è disinserito qualcosa, boh. Aspetta, è così? 1, 2, 3? Così l'hai chiusa un po'. Oh, quindi devo fare... l'ho riportata così, guarda si è cambiato. No, così è molto chiara, eh. Aspetta, guarda la troppo, 1, 2, 3, prova microfono. Va bene così, va bene, molto chiara. Ora. Caspita, adesso addirittura va anche oltre i picchi di 10, sta andando in saturazione. No, negativo. Dagli un pelino appena scendere, vediamo, mentre stai parlando. Aspetta che devo ricentrare, se no, cacciavite se no. Allora, 1, 2, 3, 4, vedi un po'? Già al 3 andava meglio, lasciala così. Allora, guarda così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parlando a braccio steso, moderato, Va bene, i picchi di modulazione sono rimasti come erano. Questo lo dovresti vedere tu, perché io qua ho l'indicatore che in modulazione va una manetta, poi questi sono sempre fissi, poi non mi dice SWR, non mi dà segnale di niente, RF credo che sia, adesso vedo, ora massima potenza sono quelli che praticamente li ho rifatti io, la modulazione 4.0 a 9.30. Va bene, sullo strumento questo ti segna così, va bene. Ora, aspetta che ricordo un attimo. Aspetta, allora faccio da 8 a fischiando quasi a 15, però modulati non arriva neanche a 10. Allora, dalle un pochettino in giro, datti, allora, per sapere se praticamente la modulazione si solleva, tu basati, ecco, da 8 a 10, non va neanche da 8 a 10, cerca di farla andare più di 10 sul parlato. Ecco, guarda, sul parlato io ho tutto il fatto che ora si sta andando in saturazione, che non alla radio, ecco. Vabbè, aspetta che c'è Fortunato che ha chiamato, Fortunato sì, vabbè, ma Tino è molto giù, Tino è nella Woody Woody, Fortunato, è chiaro che a me mi sente buonorre, a lui no, inizia a sentirlo da Florina, giustamente, ciao, buonasera, ben sentito, lo senti a Fortunato Lacchi o ti? No, io no, e lui mi sente a me. Lo senti Fortunato? Non ti sente no Fortunato. Se sei lì a muro, se sei chiuso alle gallerie, lui è molto sotto, non ti sento. Adesso quando esci alle gallerie lo saluti. Ascolta, qua io non lo sento, sto parlando, sento più gli altri in sovrammodulazione. No, è lì dove c'era la Cinesisa, non lo senti perché è coperto verso di te. Adesso quando esci dalle gallerie poi ti saluta, vai. Va bene, quindi cosa dici? Aumenta il vaso, dico? E se aumenti il watt proviamo, ma secondo me se ne va di nuovo a distorcere. No, tu mi hai detto di portarli a 10, io sono 8, adesso 8 e non arrivo a 10 in modulazione. Toccando l'LC, non la potenza, ecco il picco di modulazione toccando l'LC, portatelo oltre i 10, vediamo cosa succede. Ma parliamo di radio, quello VR, come cazzo era? VR14? Di radio, stiamo parlando di radio, non di potenza, non di fatte, di radio. Poco fa tu mi hai detto che praticamente si spostavano molto i picchi di modulazione molto più avanti a 10, poi invece sono tornati indietro, devi riportarlo oltre i 10 i picchi di modulazione. Aspetta, guarda se aumenta, ora, aumentando qua la radio? La radio è stabile, tu me lo devi dire se sta aumentando lì nello strumento, metti lo strumento in una VG. Ora. 1, 2, 3, prova, la radio è sempre la stessa. No, è salita, adesso devi sicuramente cercare di modulare senza sollevare la voce. Ah vabbè, ora guarda un po', normale, forse era troppo vicino al microfono. Così va bene, così va bene. Aspetta, va, così sono frontale al microfono e ti rendi conto di come parlo solitamente. Chi è? Chi è? Registrato un attimino, così finiamo le ultime prove. Così è normale come sto parlando sempre. Così devi lasciare, intanto non c'è alternative. Dovrebbe essere Massimiliano, vedi, adesso che c'è lui, prova a chiedere a lui se ti ascolta come ti ascolto io. Sicuramente lui ti sente più saturo. Sono stato per questo motivo. Quella radio non fa se non ascoltarla, capito? Devi abbassarla perché è troppo forte. Buonasera. Ciao Massimiliano, ma il radio devo abbassare? Perché i watt devo abbassarti, eh? Radio, ho parlato di radio, non di watt. La radio è troppo forte, capito? Quindi sembra quasi incomprensibile. Bravo, guarda. Adesso la sto abbassando, secondo te è troppo bassa. No, devi abbassare ancora. Allora, facciamo così. Guarda così. Così è satura. Aspetta un attimino, così? Ha cambiato qualcosa? Ma stai agendo su che cosa però, Tino? Fammi capire. Su RV14. Allora, ascolta a me. Il VR14, portalo al massimo. Allora, così al massimo, ecco. Ok. Adesso tu c'hai anche il 16 lì a fianco, giusto? Aspetta, al massimo, un attimino. Io sto girando a destra, non so se a destra. Guarda, tu mi devi dire se così al massimo o così al massimo. No, così è quasi tutto chiuso. Devi andare in senso orario. Vai. Da come ce l'hai, frontale, portalo tutto a destra. Scusatemi che sta toccando il watt, me. Tutto a destra. Massimiliano, il watt sta toccando, però a me mi scende da 9 a 5. Io qua non me ne accorgo, il mio smitter non va. E se lui mi dice 14, 14 non sono i watt, no. Lui mi ha detto la modulazione. Ma tu prendi l'altro, perché da 9 a 5 mi scende a 5. Ciao, Fra. Confermo, ciao a tutti. Cacchio, aspettati. Aspetta. Ora, questi sono i watt, vero? Giusto? Perché è un po' consumato, non si vede un cacchio. Ecco, adesso segui le direttive di Massimiliano. Ecco, poi c'è un altro, quello della radio, che è questo. Aspetta un attimino, te lo faccio sentire. Massimiliano. Che cosa mi hai fatto sentire? Non sei uscito. Ah, addirittura, guarda un po' così, 1, 2, 3. Ma quello che cosa stai toccando? Il 14? Cazzo T, il VR13 è della potenza, il VR14 è dell'amplificazione, l'LC. Segue a Massimiliano, è in senso antiorario, devi girare. Aspetta, cazzo, io devo guardare prima di dire cosa sto toccando. Addirittura c'è scritto VR104. Su che radio stai andando? Un Lincoln. Vabbè, guarda a finire la radio, come va così? Se no l'aumento lo abbasso, tanto toccante la va bene. Oh, ascolta, allora fai una cosa, abbassa un po' il microfono. Lasciala così la radio, abbassa un po' il microfono. Così a 7. 7 e mezzo, vai 7 e mezzo. Eccolo qua, così a 7 e mezzo con 8 watt. Cazzo, più bella di così la vuoi la radio? Prima era troppo forte, non si comprendeva nulla. Comunque va, ciao Claudio e ciao Franco. Franco, secondo te adesso? Per me la radio ancora un po' strappa, io la sento un po' leggermente che strappa. Ciao a tutti ancora. Scusate, ciao Franco, ciao. Adesso, siccome ho l'apparato aperto, per non fare lì nuovamente a toccare il microfono a parlare qua, lo vorrei regolare la radio, in maniera tale che poi, se devo abbassare il microfono, lo faccio dall'esterno, giusto? Certo, ascolta, i watt tu tanto ce li regolabili anche dall'esterno, giusto? Sì, però Massimiliano, ho portati al massimo a 10 modulati, quindi posso solo abbassare. Oh, ok, quindi tu adesso ce li hai a 10? Perfetto. Abbassali, mettili a 5, la metà, prova. Ecco qua, adesso sono a 5 watt. Poi modulati qua 7, 8, Sì, la radio è più bella, secondo me, Io sto dando il mio parere. Franco! Anch'io gli do 5 pulite. qualità adesso, neanche a paragone a quella di prima, adesso non sta strappando, è un'ottima radio. Vedi, e tu c'hai a loro vicino, e io la sento bene lo stesso, se tu lo aumenti loro ti sentono male. Sì, ma infatti io non voglio toccare più niente da dentro la radio, voglio sistemare le condizioni della radio in maniera tale che se devo agire, agisco dall'esterno, no? O per aumentare o per abbassare il basso, oppure aumentare o abbassare la radio dal microfono, hai capito? Non so fare con questi cacchi trimirini alta e bassa. Volevo fare una domanda, allora tu portando tutto il watt al massimo dall'interno della radio, ok? Il potenziometro tu poi dall'esterno, vabbè, te lo lasci al massimo, ok? Quanti watt sale la radio? La va già sale, salirà boh, a 30-40, però va in saturazione. No, aspetta, perché ti ho fatto questa domanda per questo motivo. Se tu i watt da dentro la radio li lasci al massimo, ok? E poi dal potenziometro che c'hai, dalla regolazione dei watt che c'hai all'esterno, li tieni tutti bassi, a quanto arriva? Adesso non mi ricordo, Massimiliano, perché l'abbiamo toccato, però io li ho voluti abbassare per un semplice motivo, perché tanto è inutile averne tanti dall'esterno della radio, aumentarli quando vai in saturazione, invece una volta che ce l'ho sistemati così, li posso alzare tutti, anche se mi segna 10 watt, però esce bene. No, ti ho fatto questa domanda perché volevo capire dal potenziometro, una volta che tu li tieni tutti alti dall'interno della radio e tu il potenziometro dall'esterno lo lasci al massimo e poi sempre dal potenziometro esterno, diciamo, li abbassi tutti e arrivi con 5-6 watt, va bene, capito? Adesso però se sale anche 30-40 watt con la radio e tu poi dall'esterno vai al minimo di watt, non è quanto te li abbassa, questa prova devi fare. Ah, vabbè, io ho fatto la prova inversa perché ho detto inutile che dalla radio per dire... Aspetta, fortuna! Mi importa anche a 40 watt, però non importa che sia, però esce male la radio. Quindi ho deciso di lasciare il cursore a manetta e il massimo dei watt regolarli dall'interno della radio per avere i massimi watt buoni, diciamo. Tino, qui che ti vuole salutare Fortunato. Ciao Tino, buonasera, Lucky, buonasera. Avete parlato in due, rifai Fortunato. Ciao Tino, buonasera, Lucky Fortunato. Ciao Fortunato, ciao, mi ascolti ora? Benissimo, benissimo, qua zona motorizzazione. Stiamo facendo delle prove perché questa radio spingeva il nonno, diciamo. Bene, Vela, riprendi Fortunato. Cappa, riprendo perché mi saluto, dai, che Claudio sa il perché. Claudio, un bacio in bocca, lingua, saluto a Massimiliano, che l'ho sentito come sono uscito dalle gallerie. Ciao Tino, già ci sentiamo, dai, tanto io quando raggiungo la città di Sassari sono sempre in ascolto. Riprendete pure con i saluti. Va bene, dai, così ti rilancio a Massimiliano se ti ascolta. Massimiliano, ascolta Fortunato. Sì, a voglia, ciao Fortunato, buonasera, ben ascoltato dopo una marea di tempo, va? Sì, già ti ascolto. Buon rientro, buona continuazione di serata, vai Franco. Sì, K, ciao Fortunato, ti sento anch'io alla grande. Avanti Claudio. Ciao Fortunato, un bacio grande. A proposito, per Pasqua cosa vuoi? L'uovo di Pasqua o un pacco di lamette nuove? Bastardo, cazzo. Già ti trovo in verticale, ho tutti i viti. Vabbè, che la giovedì di lui, un pacco di lamette di voce di gara. Ciao Fortunato, un abbraccio grande, fatti sentire ogni tanto. Buon rientro e buon tutto. Salutami a Gianfranco. Capa, sarà fatto. A Pierfranco, capito. Aspetta che saluto a Franco al volo. Ciao Franco, dai, riprendete che sto arrivando in deposito. Sì, capo, no, ti ascolto bene ancora. L'hai sentito dopo tanto forse. Avanti Tino. Va bene, c'è altra gente sotto, ma non dà fastidio. Ciao Fortunato, ciao, buon rientro, buon tutto. Quindi, ritornando, lascio così? Quindi, allora, secondo me, Fortino, tu devi fare queste prove. Prova a metterla a 20 watt la radio dall'interno, provi a metterla al minimo e vedi un po' quanto passa. Allora, aspetta un attimo, Allora mi dà 25. Senta, adesso sono passato il bar, c'è il senso. Oh, ecco qua. Qua abbiamo 5 watt. Oh, allora, c'è 5 watt, però con 20 watt, 25, con quanto sta riuscendo, la radio è incomprensibile. Questo lo so. Per evitare di alzare involontariamente i watt, magari pure non me ne accorgo per le varie, avevo messo il cursore completamente aperto e regolarli dall'interno. Questa prova devi fare, arriva adesso finché la radio è comprensibile, adesso a 20, 25, quanto eri la radio non si può ascoltare, portala dall'interno sul cursore al massimo, mettila a 15 watt e provi la radio. L'avevo già fatta questa prova, comunque adesso rimetto il watt a maestra, aspetta Allora, così sono 15 watt, com'è? Diciamo che potrebbe essere accettabile. Oh, questi sono 15 watt dall'interno, però mi sta andando in negativo, da premettere. Col cursore sto conto aperto. Guarda, io l'avrei abbassata ancora, da 15 l'avrei portata ancora a 12-13. Ecco qua, così sono 10 watt di portante fissa. Perché non va in... va appena appena in positivo, E così la radio è bella, confermate? Per me va bene, è con voi che deve fare la prova. Io fino a 15 lo mantengo bene. Come gli diceva Attino, siccome voi siete molto nel vicinato, può darsi sia più fastidiosa per voi. Per me così è ottima, gliel'ho già detto poco fa. Franco? Sì, anche per me questo potrebbe essere il massimo della regolazione, cioè più di così non può salire. Però se la porta più giù la radio si migliora, è una questione di watt, più di quei tot di watt non regge, va in saturazione. Bravissimo, allora io Tino, io avrei messo il coperchio e l'avrei lasciato così, però adesso tu dal cursore esterno prova la radio a portarla a 2-3 watt. Allora, così ho 10 watt, cursore esterno per abbasso a... vabbè, così è poco, Così siamo a 2 watt. Ma la radio è bella però. Cazzo, ma fa la Santiago Setti. Qui è 2. Va bene, però le mette l'aiutino, anche se Santiago 7 è qua. È inutile avere Santiago 9.30 una radio di merda, scusate la frase. Sì, aspetta, però guarda. Se io la lascio così, com'è? Prova. Guarda, 1, 2, 3 e abbiamo 5 watt, poi se metto l'aiutino è logico che abbasso il watt, però ho la possibilità di utilizzarla anche senza niente. Per me è buona così, poi Franco? Sì, può andare bene anche per me, non di più, i watt sono quelli però, secondo me i 5 watt vanno bene. Per me va bene, da 5 a 8 va bene, non cambia niente. Se l'aumenta oltre gli 8 va in saturazione anche qua. Guarda, adesso qua da 5 a ora a 8, da 5 a 8 e sto agendo sul cursore esterno, Così va bene come ti ha detto Massimiliano. Tu quando attacchi lineare la abbassi anche a 4 watt, a 3 watt, però vai bene. Non c'è bisogno di abbassarla, la può lasciare anche a 5 watt, 6 watt e attaccare il lineare. No, vabbè, ma tanto qua non è un lineare, quindi chiudo. Io avrei chiuso. Adesso mi dici se cambia qualcosa, aspetta. Metti i ribattini però. I rivetti. E tra chi si passanti, non si muore morire. Aspetta, guarda, così migliorato. Prova. Vedi un po', questa è la massima potenza che ti sto dando. 5 watt. Già buono. Non ha cambiato niente, no? Rimane così? No. Picchi di modulazione molti ne vedi tu Massimiliano? Non li vedo, che questo strumento arriva con 87 metri fasciato. E qua ne hai un bel. Da 9,5 vai quasi a 9,10 T, quindi va bene al radio. Cosa vuoi di più? Va bene sì, e sto usando 6 watt, 5 watt, guarda. Ora, guarda un po'. Ottimo, aspettate, ma chi è che vuole entrare? Vabbè, scusatemi, riprendo fra 5 minuti che devo fare il corso. Sono qua comunque. aspetti che c'è qualcuno sotto di te che vuole entrare. Chi è? Chi è? Io voglio entrare. Andrea? Certo che ti dicendo, se ti ho sentito sottottino. Andrea chi? Ah? Andrea Roccaruia. Sì, stai uscendo. Santiago 9, radio un po' scarsa, ma comunque stai uscendo. Ti do un controllo fra un attimo? Sì, Roccaruia, va bene. Un altro nome lo vuoi tagattare? Carlo Felice, Carbonazzi, invece di Roccaruia, mazza te ne varia, Kojak. Sì, no, io credo. Ho aspettato un attimo, ho detto, ma voglio vedere se lui, poi alla fine. Ciao, Anto. No, tu arrivi. 9 più. Ma lo sentite questo signore che sta modulando, Roccaruia? No, io non lo sento. Per me proprio non v'è più, proprio non v'è. È assente, lo so, è assente. Lui è un fantasma. Però c'è sempre, attenzione perché c'è sempre. Ma dov'è? Cosa tu? Hai visto il traliccio affacciata, che bello, eh? Col carrello. Stava facendo la facciata. Con la scorrevole, c'è il traliccio affacciata, c'è. Comunque vi saluto a tutti, anche se non lo sentite, Antonio Grode, il mio vicino di casa, che sta usando un portatile. Ricambia, non lo sento purtroppo. E allora dite di entrare con la radio che ci sente. Che lo fai lo stupido, che già ce l'ha il radio. Ce l'ha, ma non le può attaccare perché non c'ha più il posto utile per farlo. Ok, sì, Anto, stanno facendo la facciata. Una rottura di balle, guarda, un valore si tocca la mezza ai piedi. Ehi, guarda a faccia del cane, sono le 6 e mezza. 8-1/4, 8-10 lo sto portando, fino a quando c'è luce. Tanto prima non esce. KK, Anto. Va bene, dai, non c'è macchinari a salutarti. Già so che sei sempre di presente e devo scegliere a trovarti. Ma un bel po' viaggio in questo periodo, lui, sono un po' incasinato. Va bene, un abbraccio grande, saluta anche a Chiara e la signorina oramai, quella bellissima signorina che hai fatto. Ciao Anto, un abbraccio grande, dai. Già l'hai fatto tu, non ti preoccupare. È uguale a te, quindi, e a Chiara naturalmente. L'amore di Laria. Ciao, un abbraccio a te, fatti sentire ogni tanto. Vi saluta Antonio Grobbe, è in macchina e stava passando sotto a casa, per quello non lo sentite, vai. Avanti Massimiliano. Ehi, ciao Antonio, dai, per sentito non te lo posso dire, non so se lui mi ascolta, comunque ti saluto, dai, ciao, buona serata. No, non ti accoppi adesso. Allora, Franco, che si dice? Che si dice, me? Io ho mangiato la porca miseria, là. Sono rientrato, E Malligola già va bene, dai. Gli altri mali e quelli che non passano mai. Avanti, ti. Sono rientrato, Quindi lascio così, dai. Facciamo come mio padre, mi stava chiedendo un'informazione. Bastian, lì è Bastian. L'ho visto, detto che ci siamo visti a Predagneta. Te l'aveva detto, sì. Sì, è entrato. È entrato col telefono che non riuscivo a trovare le immagini. Va bene, lascio così la radio, anche il microfono, così almeno chiudo tutto. Guarda, il ritocchi te li dice Massimiliano, per me va bene. La saldatrice lì ce l'hai. Saldo? O metto i ripetti quelli. mettiamo noi negli scambi ferroviari. C'è la mania di tagliare i ripetti e rientrare là dentro. Come vuoi, facciamo arrangio lo stesso, Kappa, no, per me va bene, no? Va bene, si conferma, dai. Diciamo che abbiamo circa 8 watt picchi massimi, dai. Sì, a voglia. Sì, alla grande va, non cambia niente intanto, da 5 a 8, cosa vuoi che cambi? O da 8 a 10, va bene così. Va benissimo, sì, 9,5 con picchi di modulazione un po' più alti, va bene. Per usarlo così, siamo tutti attaccati, cosa? Va benissimo. No, ma tu l'avevo fatta fare la Massimiliano adesso, principalmente l'avevo fatta anche io così, però mi è insaputa. Potresti mettere un amplificatore, portare per dire abbassare il watt dall'esterno e non c'è bisogno di stare lì a modificare grandi cose, capisci, grandi linee. Ok, dai, 5 minuti che chiudo tutto. Certo, ti ha dato l'input, sì, perché lì una volta che hai protezionato l'esterno te lo porti a 3 watt, 5 watt come si sia, ne metti un 747 e ne vai a 60-70 watt, è più che utile, cosa vuoi attaccare? Un kilowatt, va bene, va benissimo alla grande, vero Franco? Sì, no, più di così, è perché è già al limite, non può aumentare di più. Se abbassa invece, secondo me la radio può solo migliorare, va benissimo così. Prima era 9,10 ma era già saturo, così è 9, ma la radio è molto meglio, molto più comprensibile. E ci conferma. Ma Cimilia, tu stai andando col Magnum? No, io sto andando con 87. Con l'eco chiuso praticamente, il pomellino abbassato. E tu hai un microfono amplificato qui. Sì, sto andando col pomellino chiuso e c'ho il mic gain a mezzogiorno, però. Vediamo un po' se... No, così l'ho aperto un po'. Com'è? Io allora, con l'87, se non usavo l'eco, mi chiedevi tutta manetta e microfono male. Se usavo l'eco, se dovevo usare l'eco, a mezzogiorno. Là c'è tutto a becco, sembra che stia usando un tanner più 3. Hai sentito la differenza, fra? Per me era troppo forte, l'ho sentito anche all'inizio di innesco, all'inizio. Prova di nuovo? No, l'innesco lo sai che cos'è, questo c'ha il parlascolta. Quindi se aumento ancora, puoi innescare. Allora. Guarda così alle ore 3, com'è? Ancora va benissimo. La bomba è. No, è forte, anche i picchi di modulazione salgono parecchio. La radio è più forte rispetto a quella di Pino, eh? Così sono con 2 watt di ingresso, eh? 2 watt o 20-22 modulati. Qua su questo smitter da Santiago 3 passa a Santiago 7 di modulazione. Conta che questo è un po', come smitter, non è professionale. Aspetta, no. Allora, così sono 5 watt, com'è? Sì, ha aumentato il segnale da quasi a 5. La modulazione è ottima. Ecco, io ho chiuso, eh. È fatto bene. Claudio, a te cambia qualcosa così. Non ci vediamo, io... Il controllo te l'ho già dato, ma si deve attendere un tanner più 3, il segnale tuo è uguale a quello di Tino, così. Allora, lasciamo così, 2 watt, perché tanto sono sempre una ventina modulati. Quello che stai dicendo a Tino, quando tu c'hai 3 watt di portante bianca e poi ce li hai modulati a 7, 10, il segnale c'ha dei picchi di modulazione ed è perfetto. No, molto buona la radio, molto buona. Allora, così ho agganciato l'eco, com'è l'eca-lecca? È uguale Romagno, e non si innanda a seno. No, però non so come avevo l'altro, qual è il pomello dell'eco? Ah, boh, non me lo ricordo, ma così è perfetto. Se non li avevi toccati, se non l'hai toccato il pomello dell'eco, me l'hai regolato tu, e io praticamente sollevavo solo il tastino. Se non l'ho mai trattato il radio, forse la prima volta. Sì, ma quando l'ho usata io qua, quella lì, l'87, che è uguale a quella, tu me l'hai regolata, mi chichina a mezzogiorno, e l'eco è così, va bene, come lo stai usando adesso. Dico di essere sito squelci, mi sembra. No, non è dove c'è lo squelci. Va bene anche così, lo lasciamo così e tu te lo giro. Bella modulazione, microfono normale, ottimo per la truppa. Vai ti, l'hai chiusa? No, sto ancora agendo sulle viti che e sono... devo collegare anche il capo, già sono in così. Chiuda bene. E poi mi l'attacchi come ti si dice, se no vite passante. Sì, Massimiliano, va bene, eccola la signora radio. La signora radio quella, vai fra. Sì, no, esce bene, per essere un microfono normale, caspita, spinge molto di radio quell'apparato. Caspita, complimenti. Ricordiamoci di mettere i piombi all'apparato di Tino. Così è Massimiliano. Sì, io ogni volta, una volta che poi lo, come si dice, una volta che lo regolo, io poi non tocco mai più nulla, capito? Lascio tutto così. Beh, se non si sposta nulla, neanche io tocco più nulla. Finché va bene la radio, lasciamo andare bene. facciamo gli scongiuri. Ah, che a me non mi piace la cagna di Tucchè, ne capito. Com'è, non è, così, colì. Vabbè, con questa radio più o meno già so dove metterci le mani, là. Io ho provato un po' la stagione l'FM, perché questo è chiamarle un po' in FM, ma qui se non siamo, non cambiava nulla, quindi non è roba per me, boh, chiuso tutto, basta così. Brecco! Avanti! Buonasera a tutti, Daniele da questa parte. Oh, ciao Daniele, ti ascolto un po' più forte, hai cambiato qualcosa? No, niente, ho sollevato l'altro giorno l'antenna, dall'ultima volta ci siamo sentiti. Sì, da 2-3 si è arrivato a 7 adesso, hai migliorato un po', dai. Avanti, Cla. Ma è questa radio che c'hai, cos'è? A chi cambia, chi ci fa controllo? No, Cla, questo è l'altro 48. Non lo so. Lo senti quando si accende la portante, ma ce li ha, no? No, io la verità non lo sento, tu sei più vicino, magari lo senti. Brava, Daniele. Guarda un po', Cla, 1, 2, 3, 4 e 5. Lo sento anch'io, sì, una zoom, zoom. Daniele, io preferisco l'altra, sinceramente, di radio. Poi, a prescindere che non ci sia bip, che funziona o non funzioni l'eco, è molto più forte di radio. Lo segnale, ti ho detto, è iniziato con 9, poi sei salita 9,5, poi sei salita 9,10, adesso sei quasi 9,20. Va bene, no, non ho fatto niente, no, Clara, quanto sarà? Da venerdì scorso. Venerdì scorso gli ho messo solamente quel palo da 2 metri da 50 e così è finito. È solamente da tirare su quei 2 metri e boh. Ma sto aspettando questa antenna che prossimamente. Sono passato da Torino, dice che non è arrivato niente. E se la prende la borsa, ma già me la ordino da un'altra parte. Sono qua, Ciao Dani. Ciao Tino, ben sentito. Ah, prenditela da internet, Daniele, ciao. Te la ordini da internet e 3 giorni lavorativi e ce l'hai a casa. E così non stai da Tonino, da nessuno. Infatti. No, tra la riscossa, l'altra radio è defunta del tutto. È defunta, non va più in trasmissione adesso. Ho chiamato la persona, gliela devo portare. Ah, ho capito. Ma lui già te lo risolve al volo il problema, secondo me. Gli ho spiegato un po' la situazione, cosa volevo fare, mi ha detto già la rimetteva in sesso. Ma chi mi ha svegliato? Vicino? No, giù a Moro, vedà, per capirci. Ah, quello già so, per mettere la mano. Poi ha fatto andare un 48 di Giovannino che nessuno riusciva a farlo andare, lui l'ha fatto andare, fatelo conto. Non c'è da fare, lui c'ha impegno, passione, rimbiati e se lo mette le mani su quella radio. Certo che sì, va bene. Avanti ti. Guarda, sto usando questa adesso che sto facendo di chiudere tutto qua, perché avevo un po' apparecchiato qua. Va bene. Ma chi c'è una sala cupa però? No, anche l'altra va bene, non ti piace questa? Ho detto, questa è una sala cupa. Vabbè, questa è la battaglia. Questa è un po' la battaglia. L'altra stavo utilizzando il Ruiz, l'hai sentito? Sì, ti ho sentito anche ieri. Già va bene, giusto per farla girare, perché sennò si addormenta nel bunker. Io ce l'avevo, però non mi ricordo che fine ho fatto, boh, ma chi l'ho dato, boh, non me la metto più. E chi l'hai dato? A chi l'hai dato, secondo te? A me l'aveva dato, capo e bugnetta. A te l'avevo dato, è vero, già c'era ragione. Io poi, a volte le mancava quella serie lì, come stavo dicendo a Tina, l'avevo dato a volte. Quindi alla fine quello che sto usando Tino era il mio, così è. No, sicuramente no. Non lo so, Silvia, questo è diventata corrente. E poi cos'ha la sveglia la tua? Quella al quarto? Cos'è? Ho gente a casa adesso, devo mollare un attimino. Ho la sveglia quella al quarto, quella digitale. No, allora, mi sembra che era digitale quello l'orologio, così bene. Sì, digitale rosso. Sì. Solo che non si accende, quindi te la fare la mia mente, diciamo. Mi muovo un attimino, che sono i miei, che ti stanno salutando, fra una cosa e l'altra, 2 minuti e poi te prendiamo. Allora non è quella che avevo fatto io, perché quella che ho fatto io era perfettamente funzionante. In tutti i suoi tasti, capito? L'orologio funzionava, tutto. Quindi quella sicuramente è un'altra macchina idea. Quando l'ho staccata da qua e l'ho volata a volte era perfettamente funzionante. Poi può darsi pure, a forza di non usarla, si è bruciato magari il circuittino della parte lì, insomma, che alimenta l'orologio, non lo so, vabbè. Avanti, Fra. Fica, ma era attaccato adesso Tino? Oh, il Tino è sempre attaccato, oramai ho 4.40 non l'ho dato a mio, oramai va, lo guarda a chi non mi ha attaccato. Pilla! No, adesso sei attaccato, maledetto! Pilla! Che questo è Ruiz? Dai che mi sto allontanando! Si è cambiato adesso, avanti Daniele! Lui commuta, capito? Ce n'è uno magari con linea retto, l'altro senza linea retto, l'altro con un più watt e l'altro con meno watt. L'incomoda, capito? Però già me ne accorgo io perché il segnale sale adesso 9.5 con picchia 9.10 con Royce, quando invece è agganciato 9.20, cambia anche la modulazione. E vabbè, lui ha i barattini lì e li usa, già va bene. Avanti Massimiliano, ma più o meno sta lì alla spunta? No, ancora no, Cla. Ancora no. Allora, io se non mi ricordo male, lui era il 624, il modello, però funzionava tutto, era bella. Addirittura avevamo trovato, qua, ti ricordi che usciva a passa prima, avevamo trovato anche la LC per alzarla un po' di modulazione. Sì. Ma lei l'avevo collegata anche, allora avevo un SBE, avevo un Turner, mi pare quello grigio, non quello nero. Avevo provato alcuni microfoni, andava benissimo, infatti a Tino gli ho detto, puoi metterci anche o il più 4 o il più 5, infatti penso stia usando uno di quelli. Va molto bene, no, un'ultima radio. No, ma era tutta funzionante, sicuramente questa non è quella lì, anche perché ha un problema in SSB quella, adesso ripeto, però ci sia derivato dal fatto che la radio è rimasta troppo ferma, non utilizzando, è successo qualche casino, però lui ne ha anche che non sono funzionanti, proprio la collezione, capito Massimiliano? Beh, sicuramente è parcheggiata quella che gli hai dato tu, perché non credo che sia questa, dai. No, ma il giorno che io sono sceso che c'è lui, gli ho detto, ma perché non è quella che c'è in vetrina? È quella che c'è in vetrina, quella che c'è in vetrina, dove c'è attaccato il turner più 2, quella lì è quella che gli ho dato io, a 4 strumenti, e ti dirò di più, che anche quel turner più 2 gli ho dato io, perché io c'ho il turner più 2 e poi non mi ricordavo più a che l'avevo dato, è quella che c'è in vetrina, nella vetrinetta piccolina, quello è il rischio che gli ho dato io, e dove ti dirò? Non lo so. Ripeto, pian piano le facciamo girare, dai, così almeno ci mettere in moto nuovamente. Questo è il KDK, non ha niente a che fare con gli altri radio. Vai Daniele, ci sei? Ehi Acra, ci sono, ma ancora è a scorreggio questo microfono. No, praticamente quando schiacci la portante sembra che c'hai un bip, fa. Però niente di particolare, va bene. Questo è l'ultimo microfono che avevo preso, stavo usando quell'altra radio. Stasera che non si coppia a questa. Cattivi radio. Ogni tanto rivedi le 5, fermo Alzheimer, vai Massimi. Sì, no, Cla, ti volevo chiedere se poi quell'info l'avevi girato. Sì, siamo in movimento, sì. Ah, a posto, va bene. Ok, ma te la compri questa Daniele, ti piace? Capo! Già è bella Massimiliano, avere i soldi ci è venuto tutti questi giocattoli che ho qua, questi due cimeli bellici, mi sei preso una serie. Ehi, cosa assurdi, io ce ne voglio un po' di soldi, ti metti da parte piano piano e ti metti una cosa seria, tanto tutti questi perribici cosa ne fai? Nulla, è che ho fatto una per la macchina e una per la stazione fissa, che sarebbe questo. E l'altro modificato era per la macchina. Ma lo usi più in macchina o lo usi più a casa? Vabbè, questo era per. Lo usavo a casa. quando sentivo qualcuno e facevo due chiacchiere, mentre l'altro era sempre nel fuoristrada. Ma sicuramente le smattulate che si prende nel fuoristrada l'ha messo KO. No, lo sento. No, va bene, sì. Cos'è questo? Ma cosa va bene che ogni tanto scorreggia? Ma la camera è con questa? Ehi! Io non intendo scorreggi, ma se mi la scorreggi senti. A volte come schiaccia già c'è lo scorreggio. Mi lo è. Ma dirmi, vabbè. Ascolta, oh Daniele, ma perché per il fuoristrada Massimiliano ne ha uno, quello Massimiliano, come si chiama quello che ha tutti i comandi dal microfono? Non me la metto. Che c'è l'unità da una parte, c'hai tutti appena il microfono, c'è tutto, cambio canali, volume, squelch, tutto la lì c'hai. E non qui dai batturati. Un Venus, così si chiama Massimiliano. Venus. E allora, non costa tanto e c'hai un baracchino per quando vai, quando esci col fuoristrada, invece i muni. È chiaro che se tu le metti un baracchino con una staffa ne biglia dei golpi. Invece l'unità tu ce la metti sotto il sedile, usci sotto, c'è il cavo lungo mi pare da un paio di metri, dove ti arriva sino al coso, si aggancia al microfono, poi c'hai tutto nel microfono. Una parola e metterla sotto il sedile in quella macchina, c'ho la batteria e poi va fuori. Capito, claro, devo metterlo per forza. Sta fatto, si sta fatto da qualche parte, capito? Sai cosa prende colpi in macchina? Cazzo, la puoi mettere anche sotto sopra la macchina, va tenuta la radio. E tanto io che ho fidato il cavallone, cosa mi vedi? Hanno un rastigliaggio la rocca. Niente, non si vediamo a Rogoglio, Valacchino e Cavallone. L'antenna sulla penna c'ha? No, l'antenna ce l'ho sopra la cappotta, una 5000 turbo c'ho. No, così alzi il braccio, sale più in alto. Ma non l'hai messo ancora Massimiliano? Poi ci sentiamo la mattina per ci stare su WhatsApp. Ehi, la mattina mi insegna a stare guaracchino, cazzo faccio 15 cani, non faccio tempo manco da... Ui, lascia perdere. Tra un po' mi metto il cattetere anche. Beh, tu pecca, già sei diventato poco imprenditore. Ah, fra, 15 camion c'ha, hai te? Sì, uno scavatore, mia impresa che c'ha. 15 camion da caricare? Mi già capito. Vabbè, se non lo dicevi. Va bene. Ma io non arrivi più, cazzo. Buona ragione, le 7. Ci siamo quasi, dai. Un'altra mezz'oretta mi sistemo il cane. Se non piove, poi iniziamo a infornare le pizze e via sul divano, noccioline, pizza e partita la grande. Au. Buonasera a tutti. Ciao Gianni. Buonasera. Se ne ascolti. Avete parlato in due, ciao Gianni, come va? Bene, bene, quello che va bene. Vabbè, come si racconta, tutti dirmi. Cazzo, ma sono un po' somare. Piano piano ci sistema anche lui. A proposito la niente, manco il cavo è arrivato, infatti. Nell'antenna nel cavo è arrivato. Andiamo bene. Agitatore, ma noi ci vendere a vini di Guido di via Gallo Felice? Mamma mia, per carità, no, noi abbiamo avuto problemi sui trasporti. Vabbè, fammi sapere appena arrivi, tu capo mi cerchi. Oioia, a me invece l'ha detto cosa, Tonino? No, è arrivata la merce, però l'antenna ancora non c'è. Perché non è ordinato? Cazzo, mi ricordo Gianni Doppio Rum, gli ha fatto perdere le staffe. Mica ha pedito i staffi Gianni, minivumi, gli ha fatto perdere le staffe, gli ha parlato male. L'ha tenuto più di due mesi. Non mi ricordo che cosa aveva ordinato, più di due mesi. Alla fine l'ha mandato in affanculo. E ha fatto bene. Poi invece Marta, quando l'ho sentita, mi ha detto, ma guarda che si chiama New, cosa cavolo è, quell'antenna. Ha detto, ma che si chiama così? Ma è New, ragazzi, torna in casinetti, ballo il nome di quest'antenna. Daniel. Eia. Ragazzi, deve farne imparare l'antenna, scusa se te l'ho chiesto. Torino ne voleva 80, da Fusaro doveva guardare quant'era il prezzo, che lui aveva il catalogo vecchio, con listino vecchio. Ha detto vabbè, lascia perdere tutto, già l'ordino da internet e vol subrima. Allora, CTE Energy 5 ottavi, IL Elettronica, 70 euro, spedizione gratuita. Così, lei stava sparando 90 e passa euro, Marzia, da Fusaro. Ah, gli ho detto, va bene, lascia perdere. Tu quando vai in macchina non vedevi manco entrare, capito? Non ci vedevi manco entrare. Devi approfittare, non c'è Antonello, come ti vuoi dire, biglia a parte, non fai quanto costa questo. 10 qua, e non controlla nemmeno, capito? Ma che senta lei, no? Capito? Ma dove scende lei? Perché ce te la fa lei il prezzo? Oh, manco 5 franchi, a prezzo pieno te l'ha fatto. Rosso, mi sono accorto come funziona anche lei, per carità, va. No, boh, mi sono tre scatole, me la ordino da internet. E ciccia, adesso in questi giorni, domani o stasera, direttamente faccio l'ordine e ciccia. Ma cos'è, ma scegliere anche vendendo le 58, quello che noi avevamo pagato, mi avevi fatto comprare il tuo per Daniele, da 25 centesimi mi sembra, quello 1000, doppia calza, centrale rigido, non quello filettato, vai, quello a cosa, eh? A 90 centesimi a metro. È pazzo furioso. Pazzo, ma pazzo giuro, ma pazzo giuro, quello è un cavolo. No, massimo, proprio pagandolo a prezzo pieno a 30 centesimi a metro. E fai 50, to, 60 esagerando, ma non 90, no. Cazzo, roba da matti. Allora, EPL, ne vogliamo parlare? 2,50 EPL, quelli in plastica, bianchi. Faccio pagare una busta, arrivate al continente, una busta è quella gialla, mi della posta, 10 PL, in bacchinita è quella nera, 5 barilotti, 2 attacchi N, 2 barilotti NPL, 4 BNC, 15 oddotto. Ma si sa, è per quello che, vedi, è per quello che qua non c'è commercio, perché la gente se ne va fuori a comprare, capito? Ti costa di meno. No, e tu ordini e tre giorni ce l'hai a casa, capito? Una busta di quelle gialle, no? Di quelle che dentro c'hanno quell'affare che a voi ti diverti a schiacciare. Una busta di quelle con SDA, 15 euro. 15 euro tutto, tutto. Perché ero disperato. Cioè vai a comprare un PL 2,50 euro di plastica, le appoggi la punta del saldatore, si scioglie la plastica, si muove tutta la punta. Ma cosa stiamo vendendo, merda? I PL vogliono buoni, non c'è niente da fare. Io lo stesso li ho presi da fuori, quella macchinetta nera li ho presi io. Li ho pagati 4 euro l'uno, però si rivalgono qua. E quando inizi a avere un po' di potenza sotto, quelli in teflon cazzo li scioglie. Ma poi si scioglie, se li appoggi anche quelli lì ho ordinato io, capito? 4 di quelli, perché non è che ne uso molti io PL. Non ne ho attacchi PL sopra le antenne, prima ce l'avevo, adesso sono tutti a occhiali diretti, quindi. Però per dentro ti fai uno spezzone, ti serve un PL, ce l'hai, ma che nera, quelli lì, cioè roba davanti, e lunga 2,50 l'uno, 2,50 l'uno, io con tutto lì sono aggiornato 15 euro tutto, 15 euro tutto, mi sembra più 5 euro di spedizione, quindi 20 euro tutto, avanti, ma 15 è il materiale, la spedizione la paghi, 5 euro, cioè roba davanti, non si, qui non c'è niente, e se ti danno roba ti danno mondezza, e allora poi si lamentano, cioè, andate a ordinare da internet e poi venite qua. Commenti, io non andrò a ordinare da internet perché mi conviene, vengo qua non mi conviene più, non posso pagare un cavo Regi 58 che non serve più a niente, giusto per pochi spezzoni, per fare qualche spezzone, me lo fai pagare a 90 centesimi a metro, quando bago io, a 1,20 euro bago il 213.000, ma stiamo scherzando, ma vai, fatto una gargata. Avanti ti. Preia, dai, stavo. Sto mettendo un po' di legna. Un po' di legna nella stufa, se no si spegne. Gappa gappa, anche quella ci vuole. Io adesso dopo chiamo a Mariolino, vedo se viene, vedo se è partita, forse se la guarda a casa, perché lui quando esce poi. La cazzo e massi, è sempre incazzato, che lo sai, e quindi. Ma tu gli ho detto, se sta via la partita, no, non ci vengo, ma sto a casa, non lo voglio, sono incazzato, bisogna dire il culo. Ma cos'è in chiaro, eh? No, è su Sky, porca miseria, se no io me ne sarei stato qua in stanza, e non l'avrei guardata qua, capito? Invece mi ha dato, loro cambiano e non mi fanno vedere un cacchio. Ma sono mettete i ripetitori? Sotto la scrivania, ma buono ripetitore. Non basta il ripetitore che faccio in capo, bullisce di voi. Ah, ti mando un programma. Cosa hai detto, Daniele? Ti mando un programma dove c'è tutto e vedi di tutto e di più gratis. quando prende il telefono, però se non prende non ci vedi niente. A parte quello, e vedi da là alla Z, capisci internet? No, ma al computer grande? Non lo so se si può mettere nel computer, però c'ho un'applicazione nel telefono che vedo tutto. Su WhatsApp. Per metterla sul computer devi scaricare un emulatore, ci vuole, di Android. Quanto siete informati? Sì, è così. Sì, cazzo, ci sono tutti io, ma poi un telefonino. Cazzo, non fai con quando mi chiama, ne mangio i più piccini, chi è? Riesci a vedere chi è? E mi manca a vedere la partita. Ah, non c'è, io ce la guardo col Chromecast. Metto questa applicazione e poi lo mando al Chromecast e me lo trasmetto al televisore. No, non lo posso neanche fare, perché io c'ho Sky, quindi non me ne frega niente. Se non avevo Sky, io c'ho lo Smart TV, potevo magari scaricare l'applicazione sullo Smart TV, c'ho Infinity, c'ho Mediaplay, c'ho tutto lì, capito? Però c'ho Sky, quindi me la guardo su Sky le partite, quando le vanno. Quelle su DAZN invece ogni volta deve scaricare, ce l'ha sul telefonino Ilaria. Quindi metto il telefonino di Ilaria nella base dello Smart TV e col cavetto USB faccio praticamente dal telefonino, lo vedo però sullo Smart TV da 46. Vabbè, tu ma c'è quello, io invece non c'ho lo Smart TV, mi sono fatto col Chromecast, che è tipo una Smart TV alla fine diventa. Ma lo puoi guardare anche sul cellulare però. Sì, Massimiliano, ma non ci vedo. Allora, per ingrandire il video praticamente, mentre sta trasmettendo dal telefonino, io attacco il cavetto USB dal telefonino al USB dello Smart TV e me lo ingrandisce nello schermo grande, capito? Daniele, ti ho fatto. K. Vedo un mezzo. Lo so. Però con quella vedi tutto, non sai con altre applicazioni o cose che si interrompono a destra e a sinistra. Quella lo impulsi quando c'è connessione buona. Io quello con wifi, sì, lega il formulario e vedo benissimo, me la metto in TV ed è di lusso. Ma ce n'è anche un altro, forse mi sembra che sia a pagamento, una centina di euro credo che sia annuale, però senza interruzione, senza niente. Cos'è? Ma devo far dire, perché ce l'aveva un amico mio per giunta poliziotto. No, non conosco, no, vabbè, io c'ho Sky, ce l'ho sia sul digitale con la scheda X Premium dove vedo tutto, e poi c'ho la parabola in alto sul tetto, noi abbiamo la centralizzata sul tetto che l'aveva fatta Paolo, e quindi mi collego a quella anche e vedo tutto, c'ho tutto, qualsiasi tipo di sport, ciclismo, nuoto, pallacanestro. Ho visto la partita in diretta, oggi è arrivata una gaggata, la partita in diretta della Dinamo che è fuori, non so cosa sia, Coppa, non so che cosa, e qui c'è la Champio, se non mi avrei guardato una e l'altra, tutto, anche MotoGP, Gran Premio, tutto, però sempre su Sky, o sul digitale terrestre, oppure con la parabola, quindi non ne ho altre applicazioni. L'unica applicazione che abbiamo sul telefonino è DAZN, però su DAZN, siccome io sul telefonino non la vedo, me la passo sullo schermo grande, capite? Basta. Guarda che non te ne serve stavolta di telefonino che si vede su Rai 1 la partita. Ciao a tutti, buonasera ragazzi. Ciao Ronaldo. Poi CR7, come su Rai 1? Allora mi chiamo Inoghi. Sì, se CRC è. Vai, tu sei allegri, peggio di allegri, sì. Non li sai di queste cose, tu, per carità. Allegri! Oh, sì, Pizzimo, allegrare il gioco. Dai, dai. Perché la Pizzimo? La Pizzimo, che voglio dire, Pizzimo. Ciao, Franco. Poi Tino mi sembra, il Massimiliano anche, oltre che Allegri c'è anche. Ciao a tutti. Ciao Giulio, buonasera anche a te. Sì, c'è anche Daniele, avanti Daniele. Ciao Giulio, buonasera, ben sentito. Fateli prendere a Gianni anche, che era in parcheggio, mi sa. Sì, ciao Giulio, ciao. Ciao Tino, ciao Daniele. E Gianni, avanti Gianni. Buonasera anche a te Giulio. Stavo ascoltando, interessato a queste applicazioni varie multimediali, ero curioso e quindi sono rimasto all'ascolto. Lei faccia un attimo di bianco. Questa gente no, Gianni, lascia riprendere, che di questi di tecnica non se ne intendo. tutti pirati siamo. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Matteo, sì, sto scherzando. Sì, ma con l'applicazione chi è che non ce l'ha? Ce l'hanno tutti ormai. C'è un visore grande, di gran carriera, per cui... Però, diciamo che anche se ogni evento sportivo di un paio di minuti in ritardo, voglio si vede bene ugualmente comunque. Vuol dire che il risultato finale lo sapremo due minuti dopo, anziché in tempo realissimo. Ma tu Giulio, quando è Dazon, ti appare sempre quel cerchietto che gira? Sì, dopo 5-6 secondi, massimo 10 e poi riprende. Certo, e beh, quello sì, è ovvio. Quello sì. Ed è per quello appunto che rimane indietro di un paio di minuti quando alla fine della partita. Non è l'abbonamento. E oggi tu sarà al telefono di mia figlia, è così, perché io appunto dal telefonino mi attacco il cavetto e me lo guardo sul video grande. No? Basta ad esempio che Taballina gli rendi. E si interrompe? No, interrompe o non si interrompe, ma c'è questa pallina praticamente ritarda la telecronaca, capito? L'importante è che non si interrompa, dai. No, non si perde niente, perché riprende da dove si è interrotto, continua tutto. Sì, da fastidio perché magari ogni tanto si può interrompere, ma dura pochi secondi, non è che... Però poi, quello che non hai visto, non credere perché sei interrotto che non l'hai visto, no, si vede lo stesso perché va avanti. Infatti la sta lì, che va bene, la gioia, ho detto, cazzo, ma la partita è già finita e c'ho ancora da andare a delle cronache. Perché c'è il trucco, come riprenderà subito, tu un attimo torni indietro, poi riparte subito e si riprende alla grande. Oh, claro, ti prende i guardaggi, ce lo stavo dicendo Tino. Ma per Dazon? Ah, ne danno una... Io su Dazon mi pare ho guardato due, o forse tre. Ma cosa Dazon? C'è un aggeggio e non c'è bisogno manco di parabola, come stavo dicendo Tino, paghi 60 euro all'anno e vedi tutto, non solo sponsor, tutto vedi. Ah, vabbè, io c'ho anche cinema con Sky, c'ho lo Sky Cinema che pago 35 euro al mese. Torra, con questo aggeggio vedi tutto, capito? Tutto, anche la prima fila. Ah, e che aggeggio è ti, canto goccia, dimmi dopo e quando? Quando è il streaming? E non solo un calcio, tutto, ciclismo, pugilato, tennis, pallacanestro, film, di tutto, tutto, indistintamente, di tutto il mondo, non solo nazionale, tutto il mondo. Poi uno se lo vuole vedere grande, usa quell'applicazione della televisione e lo vede grande. E cos'è streaming? Ed è streaming, certo, sul tablet c'è cioè, tutto qua, tutto indistintamente, sai cosa vuol dire tutto? Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, tutti là, tutti, Sky 1, Sky 2, Sky 3, in italiano, tedesco, francese, di tutti i vanili, che sono in spagnolo, tutto, sai cosa vuol dire tutto? Ma qualsiasi televisione, è rarissimo che ci manchi un canale, insomma, ecco, di tutto il mondo. Insomma, ma ci vediamo un tablet allora. Ascolta, la partita della Dinamo adesso. Adesso è? Beh, si me la gioca per dentro su coso. Sul telefono. Canale 58 stai guardando, cosa stai guardando? No, HP. Sì, in K4 io ce l'ho la partita della Dinamo, pensavo che ecco concomitante con la Champion. Oh, scusate, vi devo mollare, devo fare cosa? Al limite se coincide più tardi. Ciao. Ciao T. Napoli Sardegna spicca Sommier con 6 personali, diciamo che ha tirato con 2 su 5 fino a poi. E cazzo, ma tu lo vedi lo telefonino, io non lo vedo. Io si vede. Cappa, va bene che va bene, va. Ciao Tino, non toccarla più, questa radio è la migliore che c'hai, non toccarla più. No, vabbè, questo è un altro pianeta, eh. Esci sempre con questo qua. Mangiate dopo ci arrugginiscono. Adesso complimenti, ottima radio. Sì, c'era la 44, piccolino. Quello è il fratello di questa qua e di quella che c'ha Giulio, gli auguridici. Ottimo, ottimo, davvero. Va bene, signori, dai, mi devo allontanare. Ciao, divertitevela, a più tardi se coincide. Ciao. Sì, vendete quella lì e ti tiri i baracchini. Ok, ciao, buona serata. Ciao, avanti giù. Ok. Vai a fare. Sì, il tablet è conveniente, o Claudio, perché, ripeto, qualsiasi manifestazione vedi lì, e no, solo. Se vuoi vedere, per dire, io sono un programma di televisione, ma è giù uno in televisione. E l'altro puoi vedere, per dire, sempre della Rai, o di Sky, o di Mediaset. E lo vedi del tablet, no? È ovvio, basta bene, basta sintonizzare, già ci sono tutti i programmi, tutti indistintamente. Sì, io non ci ho mai pensato, la verità, anche perché io ho la linea wifi da questa stanza allo smart tv al salone, hai capito? Quindi potrebbe essere interessante, non ci ho mai pensato, vabbè, adesso vediamo. Sì, non sapevo, Giulio, infatti me l'ha detto anche Tino, ho detto cos'è in chiaro, ho detto no, su Sky, non sapevo che eravamo sulla Rai, e viene meglio perché io me la sto qua in stanza e me la guardo, c'ho la televisione da 32 a parete, me la guardo qua e loro si guardano quello che vogliono, capito? Dai, io vado alle 9. Ah, se mi sembra addirittura che incominciano a parlare addirittura alle 8:30, se ricordo bene. Però alle 9 la partita. Molto bene, grazie dell'info. Così mi organizzo il cane. No, occhio da ciò. Ancora è presto. Me ne sto qua in stanza. Tanto ci abbiamo pizza, stavolta il mio dovete in pizza. Una lattina di goccia, ma bugino che me la vedono, così non sto lì a rompermi le scatole, stanno sempre parlando loro, non capiscono accidenti. Avanti Gianni, riprendi. Eia, quindi avete risolto l'arcano, dai. Bene, bene, meglio così. Ho sentito che Tino si è allontanato, salutoni, casomai ci si aggiorna. E niente, poi alla fine siete riusciti a sistemare queste baracchine di Tino? Sì, abbiamo fatto due ritocchi poco fa, ma Massimiliano e Franco, vanno bene, in linea di massima vanno tutti bene. È chiaro che per fare dei ritocchi quando apri una radio, toccare i trimerini che devi toccare, devi stare attento, devi avere un corrispondente che ti segua, perché sennò non ne capisci niente, capito? Kappa, bene Mela. Avanti fra. E anche Gianni c'ha lo stesso microfono di Daniele. Ah, è claro, ricordati di guardarla sul canale 501, almeno te la guardi in alta definizione, claro. Sì, anche questo c'è l'HD, sì, lo metto 501 qua. Si vede benissimo, no, ma nonostante sia un televisore di vecchia generazione, questo è dei miei suoceri, l'ho portato qua, l'avevo fatto riparare perché non accendeva, ma l'ho attaccato a parete, un 32 pollici della Mifa, ma c'ha dei colori eccezionali, schermo piatto, però non è chiaramente di ultima generazione come quello che c'è nel salone. Sì. Ascolta Giulio, un'altra informazione, cosa costa un tablet medio, insomma, che mi consenta di fare questa cosa? Sono diversi tipi, a seconda della grandezza che lo compri, da 200 in su, 300, 350, dipende da quello che vuoi spendere tu. Poi naturalmente più grande lo compri, più è più grande l'immagine, no? 400 euro ti prende un bel portatile. Portatile, va giù di comando, ho il monitor da 19 io qua sul computer. Vabbè, cosa rientra? Ma per 300 euro al posto di un tablet ti prende un computer portatile, no? E va bene lo stesso. No. Con computer è diverso il discorso, con computer ti devi scrivere e devi sbagliare, però non lo vedi, vedi poco e niente, dai, il tablet ti fa vedere tutto. Ma scegliare, 2007, 200 il pinamme vuoi fare, quindi un tablet e mi biglio allora, cosa ci vado a media volta a vedere, giusto rendermi conto di quanto possono costare, dai. Se ce n'è uno anche da, per dire, 6 pollici, grande da 6 pollici, Giulio. Aumenta. La mazza te ne vai, arrivi, tanto lo diranno solo i due. 6 pollici è un cellulare mio, Vai a Zeneca, 6 pollici. Ma non mi conti, in pollici. Deve prendere almeno da 12, da 15, minimo. Da 3 quarti vuole. Oh Giulio, ma fai Gagliaghi, si parla con me, da quanti pollici vuole? Giulio. Per giocare così, questi yoghi strani di Polieta, ce l'ha da 12. Ascolta, il 756 è da 2 pollici, il quadrante. Più grande vuole. Più grande di quello? Se vuoi ce l'ho io uno, mi è chiuso in scatola, mai usato. E da quanti pollici è? Da 10. E quanto vuoi? 150. No, ascolta, ho un baracchino. mattino lo vuoi? No, basta, ecco, arriva la chiesa, adesso ho tre scatoloni pieni, basta. Allora ti do 4,30 e mi aggiungi 150 euro, ma ne va? Tieni il tiro, se ne è tutta salata, non lo faccio tutto. E beh, almeno riposa. Ti riguardo, boh, fra, vado in giù, cazzo tratti bene, non fa nulla, boh. Ah, se non la vedi oggi la partita, mi ricordatelo, non hai letto il giornale, no? Perché? Mi devo staccare la corrente? Bravissimo, stacco la corrente a Carbonati oggi per il quartiere, dalle 9 alle 11. No, fotti nulla, prima quella tutta me l'hanno mosserrato. Allora, vabbè. Se no ando dai visini, vabbè, ma tutto il quartiere staccano. Sì, non ho letto il giornale. No. Andate a casa di Giulio a mangiare, allora la partita. Se manda di trovare Giulio, venga a casa tua. E vieni qua, cosa vuoi ti dica? Io faccio il gruppo elettrogeno, ma rimane andato. No, vabbè. Ma non devo portare niente a mangiare. Tocca con i piedi. No, mangio le atroci. Con un capo. Mangio i corri. Non te lo posso dire. Lo fa, ma te lo leghi da una parte, no? Oh, yeah. Lasciamo perdere, dai. Cosa vuol dire? Prendi un Android, dimmi, non prendere roba di Apple, che quelli sono come si dice, criptati, non riesci a violare. Invece l'Android li scarichi quello che vuoi, mi. No, l'app e bugni, non ne voglio app. Costa un bel. Android, dicevo io, anche il mio Android. Ma Massimiliano, il telefono mio l'ha visto, lo conosce, ogni volta mi prende in giro. Quante volte abbiamo una partita di un telefonino del genere? Quello di Laria, Laria c'ha, non so se è l'S8 o l'S8, come quello che c'è tu Massimiliano, forse tu c'hai il 7 e lì c'è l'8, una cosa del genere, ed è grande, si vede bene, e già mi dà fastidio a vederlo, immaginate nel mio. Hai provato gli occhiali, Cla? No, poi mi lacrimano gli occhi, troppo da vicino, no. Io sono ipermetrope, da vicino, anche facendo qualcosa, poi mi fanno male gli occhi, mi fanno male, non fa. No, questa storia del tablet può essere interessante, se non costa molto, che mi soddisfa, mi dico di sì. Il tablet lo puoi usare, praticamente è un telefono grande. Se c'hai per di quelli con la scheda telefonica e lo puoi usare anche come telefono, capito? Come il mio. Il tuo anche la telefono fa? Sì, posso anche mettere la scheda e il telefono anche, certo, tutto. Lo posso usare come telefonino. Vabbè, grande. Come fai? No, vabbè, no, quello no. No, io sto per casa per inserire questa applicazione che hai detto tu, capito? Sì, però ricordati che devi prendere quello che possa funzionare il sistema Android, perché ci sono certi tablet. Se non ha quel sistema lì, non prende? No, Android, quello già lo conosco, anche il mio è Android, anche quello di mia figlia. No, non ne abbiamo uno dell'altro, sono tutti Android. Perché un Android di recente, cioè che non sia roba vecchia, se no non ti funziona. Infatti no, se non è roba recente, no, infatti. Tu pensa che l'avrei volato anche il sito, l'avrei volato a Roberto o Claudio. Roberto se ne guarda lì le partite, ne ha visto diverse, ogni tanto ci sentiamo, me lo dice sempre. Sì, mi c'ero ieri, cioè vabbè, mercoledì che devo portare la 147. Dovevo sistemarla. Sì, Android, beh certo, non è che vado a comprare un coso, un tablet che non sia ultima generazione, Android, glielo dico, va bene, se no vai l'aria e lo prende lì che è più preparata di me. A me il telefono io mi avete battito, quindi immaginate tu ci ando a comprare i dossi. Però questa è una cosa che può essere interessante, va bene. A tu ridi capo e boniere. A parte l'ho fatto da giudizio l'altra volta, c'è stato un'ora facendomi, inserendomi non so che cosa e non ha pigliato nulla, visto dai? Perché non c'è una linea che non vale a nulla, capito? Va bene, dai signor, io vi lascio che vado giù a vedere se sta iniziando a mettere qualche pentolina sulle fornelle, che io ho un po' di fame, no? Bevo una birretta, aspetto che mi guardo la partita. Già altri messaggi, ora piano piano bello bene. Vi saluto a tutti con la buonasera, grazie delle due chiacchiere, grazie di tutto. Faccio riprendere a Gianni per i saluti. Ascolto i saluti e poi vado in QRT. Ciao Massimiliano, buonasera, buon proseguimento. Ci si risente prossimamente. Ok, dai, faccio girare. Avanti Giulio. Ok. Sì, vabbè, dai. Continuate voi, sto seguendo una partita, sto seguendo di due squadre straniere, che non so nemmeno che squadre sono. Una c'è la sigla LCZ e l'altra è LCD. Quali sono quelle squadre qua? Abbreviato, il nome è abbreviato, uno è LCZ e l'altro è LCD. E sta dicendo il secondo 1-0. Ma oggi giocava a Liverpool, mi pare. Liverpool e Manchester United, Manchester City e Tottenham hanno giocato ieri. Forse c'è il Porto, Porto, Liverpool, l'altro non mi ricordo qual è. Il Tottenham ha vinto, sì, era col Porto mi sembra, il Tottenham ieri non stava giocando contro il Porto, ha vinto 1-0. No, contro Manchester City ha vinto 1-0. Ah, tanto meglio, caspita, più bello è, più bello è, quando è così va meglio, e cosa vuoi di più? Allora cominciamo a non temere più nessuno. Hai capito, per quello sono sincero, quando l'ho vista, perché poi l'ho vista ieri sera, alla fine proprio stavano lottando, hanno dato 6 minuti recupero e Manchester City non ce l'ha fatta. Cioè allucinante cosa si sta vedendo quest'anno in Champions, fuori Real Madrid, fuori Paris Saint Germain, se esce il Manchester City guai, allora la Juventus che tanto vince davvero la Champions. Scusate, fatemi salutare Massimiliano, ciao, alla prossima. Ciao Massimiliano, e io stavo seguendo la partita, non ho seguito che stava accadendo. Ciao Massimiliano, sì, ma certo, ma c'è libero tu, maledetto, libero è forte. Infatti, ciao Massimiliano, già ci aggiorniamo, come manda così strani, Ci pega io vento, mi sicuro da uno bianco, già dallo secondo bianco, ma sempre abituato a no, al secondo non mi faccio niente. Vabbè, scendo al primo, mi sicuro dallo primo. Sì, adesso questa squadra adesso ha pareggiato, 1-1 adesso, queste squadre. Non so che squadre sono, perché non è completo il nome, capito? C'è solo una sigla, è il nome delle squadre, è una sigla che c'è. E non lo so quale squadre sono stranieri. Io mi pare dovesse giocare Liverpool, poi giocava il Manchester United, poi un'altra squadra, altre due squadre che non mi ricordo, il Tottenham, il Porto, il Manchester City hanno giocato ieri, però l'altra non me la ricordo, e vabbè, però se il Tottenham ha contro il Manchester City io avevo l'impressione che quest'anno se la Juve c'ha testa potrebbe fare molto di più. Vabbè, avanti. Ma c'era anche Daniele, eccomi, ci sono. Minchia, siamo proprio dimenticati di te, riprendi e fai girare, dai, è entrato Giulio e Gianni, riprendi. Nel frattempo mi sono fatto una sigaretta, ero giù, già vi stavo ascoltando lo stesso, va bene, dai, riprendete, è sotto a chi tocca, dai. Ah già, aspetta, vai già, che io intanto vi trovo a vestirvi che ci andrà alle 7:30, dai. Riprendi Gianni, fai girare tu, un secondo solo io mi prendo. Bene Meda, vabbè, qua c'è un raggio di sole, si è aperto un po' il cielo, non so com'è la situazione da voi, ma insomma, a quanto pare ci sarà ancora un po' di pioggia, presumo più tardi, però per adesso va bene così. No, io ho la finestra a est, quindi non vedo niente questa parte. Ascolta già, ma hai fatto qualcosa, qualche cambiamento? Negativo, tutto come prima, perché hai trovato variazioni? No, mi sembra di diverso di radio, vabbè ho cambiato l'apparato, questo e l'altro, là. Intanto lo cambio per farli scaldare un po', e ti sento diversamente, Ma c'ho sempre un baracchino, un microfono, un'antenna, quindi non è che ho... Non posso fare niente, cioè è tutto originale. Ma diversamente in che senso? In meglio o in peggio? Un po', non so, un po' più compressa la modulazione. Però ripeto, potrebbe essere l'altoparlante dell'apparato, dai. Ah, ho capito. Non ho fatto assolutamente nulla. È tutto fermo da svariate settimane, da quando ho fatto quell'aggiunta del cavo. Poi per il resto non ho toccato più niente. Ho capito. No, anche quando agganci il microfono sembra, mi ricordavo diverso il rumore quando quando attacchi col microfono, va. Magari è il commutatore PTT che è sporco, boh, non so cosa, da cosa può dipendere. Boh, nessuna modifica, tutto original. Venga, una curiosità, si assomiglia un po' all'attacco del microfono del PTT di Daniele. Avanti, giù. Ok. Sì, oggi l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa tutta la serata, vabbè. Ma ieri tutti quanti in vacanza da base, non c'era un'anima ieri sera, non ho sentito nessuno. Confermo, anch'io, ma c'era un po', ma non c'era nessuno. No, no, io sono tornato tardi, che non era a Sassari, infatti poi stavo messaggiando continuo e gliel'ho letto. Ho capito, sì, sì. Adesso ti mando la prova o Claudio su WhatsApp, ti mando. La prova di cosa? Che c'era partita su Rai 1. Ah, e io ci devo mandare la prova, non si è mai detto che così è così. No, io non ho sentito niente, la verità. Infatti mi sto vestendo. Così adesso mi sistemo il cane, sta arrivando mia figlia, un genere, insomma, ci guardiamo questa partita, rimaniamo un mucchio di vita. Ma la guardo di là assieme a loro, questa versione mia moglie, intanto non c'è niente alla TV. Così qua spengo tutto e la guardo che sarò. Vai, aspetta, Daniele, prendi tu, dai, fatemi vestire, arrivo subito. Andale. Io sono qua, sto guardando una cosetta nel catalogo. E va bene, là, riprendi Massimiliano. Ma mi sai, Massimiliano è già chiuso, Che cavolo hai ordinato, Daniele? No, l'antenna dovevo... stavo guardando. E il cavo cosa metti? No, il cavo c'ho il 213, nuovo fiammante. Buono, buono. È che c'è la spezzone, c'ho una calata dall'antenna che entra dentro casa al 213. Capito? Perché fa un giro, entra la mamma e poi scende a casa mia con le reti 58. E come l'hai unito? Col barilotto PL. Ah, capito. Lo puoi anche saldare quello, no? Credo. No, l'ho unito, l'ho messo il PL, uscita PL, barilotto e PL. E non è meglio saldato? Non penso, no, pure che faccia troppa dispersione poi. No, sarà al contrario, io penso che è saldato, se lo saldi bene è meglio, poi lo isoli, lo vulcanizzi. Perché avevo fatto altre prove così, vabbè, le ho fatte prove volanti tempo fa. Quando c'avevo il cavo e non mi piaceva, capito? Boh, vedi tu, secondo te Giulio, come è meglio? Lo stavo seguendo, ma sto parlando del cavo, lui ha aggiunto un pezzo di cavo da 75 ohm, non va bene, non va bene, anche se sta funzionando, però non va bene, non è la sua impedenza. No, sto parlando di Daniele, ha unito il 213 con il 158, ma è meglio unirlo PL e barilotto, cioè due PL e un barilotto, oppure è meglio saldarlo? Ma sicuramente se è fatto bene è meglio saldarlo, però col barilotto va bene ugualmente, e va bene anche perché hanno la stessa velocità di trasmissione, il 158 con il 213, hanno la stessa velocità di trasmissione. Va bene, così va bene. Naturalmente pesi, perché nello spessore del registro 48 hai più pesi, se no, Daniele, questo si sa, è ovvio, no? Per cui non hai il massimo che puoi avere. Quello sì, già che se lo fai è l'unica calata, ma mi viene troppo impossibile. È una cosa impossibile da fare, capito? Se avrei fatto un'unica calata, e invece... Non fa, peccato. Ragazzi, io vado a portare il cane, se ci siete a dopo, altrimenti ci sentiamo più tardi, va bene? Vabbè, barilotti o fra, sono fatti per aggiuntare i cavi e PLPL, quindi, però chiaramente, come dice Giulio, se lo saldi bene, lo isoli con lo caldo e con lo freddo, poi lo vulcanizzi bene, lo fai diventare proprio a livello del cavo, è un lavoro fatto meglio. Due cavi così, uno grosso e uno fine, non è che mi abbiate a serme. Dai, cambio, lo passo a Gianni Rubrofretta, io vado a portare il cane, a dopo. Bene Meda. Sì, Giulio mi aveva anche dato un consiglio a me, cioè di, se non sbaglio, se non ricordo male, se quando si giuntano due cavi saldati di mettere sopra un pezzettino di carta stagnola e poi nastrarlo, così almeno si riduce la possibilità di stazionaria, confermi? Sì, diciamo che, allora, mi spiego bene, il polo caldo, cioè il polo centrale, deve essere ravvicinatissimo, proprio ravvicinatissimo il più possibile, senza lasciare possibilmente distanza di isolamento. Dopodiché la calza va sovrapposta l'una all'altra, va sovrapposta, naturalmente cercando di non fargli fare contatto col polo caldo, è normale, no? Quello è chiaro, si può mettere sempre un pezzo di lastro isolante, però c'è da considerare questo, se la giunzione è all'esterno, prima o poi l'acqua passa e inizia a stare lì, e il cavo se è intero, quando è intero è tutta un'altra musica, non si può dire di no, il discorso è questo. Mi sono spiegato? Sì, giù. Ok, perfetto. No, era giusto per citare quel suggerimento che mi avevi dato l'altra volta, capito? Giusto per quello. Poi presumo che anche i due barilotti, cioè i due spinotti con un barilotto PL vadano bene, anche quelli giustamente dovrebbero essere isolati. Sì, va bene così, basta metto dentro un pezzo di tubo di gomma e messo la curva in modo che sia a testa in giù, in modo che non possa passare l'acqua, e chiuso bene con la isolante da una parte all'altra, e il barilotto all'esterno può andare, facciamo così. Tu mi dirai, anche il capo può andare, certo che può andare anche il capo, ma l'altro giorno non stavamo sempre parlando di quello, stavamo parlando dell'allattamento di interesse, che tu hai usato un pezzo di cavo da 75 ohm e l'hai aggiunto a quello di 50 ohm e così non va bene perché c'è una disparità di differenza. Dunque, ti avevo detto che per poter fare un collegamento del genere, premesso che è sempre una giunzione, ma premesso quello, ci vogliono due pezzi, tensioni uguali di cavo RG 59 che hanno 75 ohm hanno. Tra questi due, prima del collegamento al cavo 50 ohm, ci vuole una resistenza da 50 ohm. Facendo questo accoppiamento di questi due cavi, uscendo sempre da dentro PL insieme, poi aggiungendo su e collegandoli al cavo, trasformi il cavo che tu hai utilizzato, lo trasformi in 50 ohm, non è più in 75 ohm. È di quello che abbiamo parlato l'altro giorno. Sì, confermo. No, quello era, quel discorso era chiaro, no? Era giusto l'isolamento con la carta stagnola, capito? Solo quello volevo mettere insomma in risalto, capito? Sì, va bene Gianni, va bene, se un lavoro fatto bene già si può fare, però ripeto, l'unica cosa è avere il capo di pensiero. Oggi ci sono dei cavi che non sono costruiti, ad esempio l'H155 è un cavo che costa intorno a 1,20 euro, 1,30 euro, massimo 50 al metro. Dunque non è questa grande spesa per dire, no? Uno se lo cambia, se lo mette tutto intero, perché si sa, dove c'è giunzione c'è sempre un minimo di spesa, c'è. E quanto bene possa essere fatta, sempre un minimo di spesa c'è, per forza. Questo non si può dire no. Anche perché l'H155 è un cavo che ha una bassissima perdita, per cui è abbastanza schermato, mi sembra che è schermato all'85%, si può immaginare, e questo è importante soprattutto quando fai una discesa dove ci sono cavi TV che tendono a fianco, o cavi elettrici anche quello è importante, cavi telefonici, tutte queste cose, perché l'interferenza, ricordatevi sempre, difficilmente parte dall'antenna. L'interferenza è fatta sempre dal cavo di discesa, quasi sempre, per cui è meglio utilizzare cavi a bassissima perdita, possibilmente che siano schermati al 100%, come ad esempio l'H1000. Ok, allora ti fai girare Gianni. Perfetto, va bene così, grazie mille. Dai, avanti Fra. A proposito di carta tagliola, l'altro giorno ho visto, grazie a Claudio abbiamo sistemato un microfono, quello dava segnale di alternata con il valvolare, con quell'apparato valvolare, e abbiamo risolto il problema con un pezzettino di carta tagliola spalmato sulla capsula e poi seguendo anche la calza, la massa, e risolto il problema. Avanti Daniele. Ecco, eccomi. Giuro, ho capito, stai parlando del mio cavo o di quello di Gianni? Stavo parlando del cavo di Gianni, e anche del tuo, vale anche per il tuo, non è che il cavo tuo può essere diverso da quello di Gianni, no? Cavagaba, ho fatto 213 con 158. Sì, va bene, ripeto, la radio ti funziona sempre, non è che non ti funziona, però ripeto ancora una volta, il cavo deve essere intero e senza mettermi 20 metri in più, massimo, anzi addirittura c'è una regola addirittura che il cavo per essere proprio adattato perfettamente all'antenna c'è tutta una operazione matematica da fare, per cui ti spiego brevemente, guarda, parlando della nostra frequenza, cioè degli 11 metri, e tu fai la moltiplicazione dall'antenna fino a casa tua, fino al centro, arrivare al baracchino, lo puoi fare in diversi modi, ad esempio 45 cm per volta, oppure 1,82 m per volta, fino ad arrivare al baracchino, senza mettere né di più e né di meno. Tu mi dirai, ma quando arrivo lì ne posso avere, che so io, un metro e meno? Se ci vuole quel metro lo devi lasciare, questo per avere un perfetto adattamento del capo all'antenna, perché se no c'è sempre una piccola differenza. Mi sono spiegato? Cava. Va bene, riprendi Gianni. Sì, ho capito quello che stava dicendo Giulio, mi sembra di averlo letto da qualche parte su un forum, questa cosa del metraggio del capo. Eh sì, è importante, insomma, bisogna rispettare determinati parametri. Sì, giusto, bisogna tenere in considerazione diverse cose. Ok, dai, vediamo cosa dice Franco, va avanti Fra. Più o meno quando fai il calcolo per un'antenna in base alla frequenza, e così farai per il cavo, così è giù, no? Esattamente, praticamente la lunghezza del cavo vuole sempre un multiplo della frequenza, della lunghezza d'onda, non della frequenza, della lunghezza d'onda, un multiplo per volta, e arrivi vicino al baracchino così. Naturalmente questi sono impianti proprio con la massima, diciamo, pignoleria, è ovvio, a noi non ce ne frega niente se abbiamo 2 metri di cavo in più. L'interessante è che non ci siano partite per del piede. Però se noi dovessimo parlare tecnicamente, e fare veramente un impianto d'antenna come si deve, bisogna fare questo calcolo matematico, che nessuno fa, ma nemmeno i radioamatori, loro che hanno delle pretese superiori ai CB, no, in fatto di potenza, in fatto di cose, eccetera, non le fa nessuno, un po' perché la gente la radio non tutti lo sanno, un po' perché non gliene frega niente. Il primo sono io, ad esempio, ne ho preso 25 metri a cammino di avversati, perché mi piacevo tagliarli, però in realtà a me non me ne occorrono 25 metri, perché me ne occorrono 20 metri e 48 centimetri, per dire, questa è l'esatta misura. Però ho fatto questa lottaglia, mi dispiace, invece ho pensato, adesso lo lascio sul tetto, così lo lascio, è un domani, se posso mettere, vogliamo mettere l'antenna prima, perché no, ecco qua il discorso. Tornando all'LG58, è il cavo che ha più perdite in assoluto, ecco perché vi consiglio almeno l'H155, perché è un cavo che ha bassa perdita. Mentre invece l'LG58, avendo solamente 10 metri di cavo, questo è il minimo che uno può avere per un impianto d'antenna della 27, si perde la metà della potenza. Cioè, dicevo, se tu hai un baracchino con 10 watt e tu metti la portante a 10 watt, stai tranquillo che l'antenna le aggiungono scendo la metà, per dire no, e noi diciamo stiamo scendo con 10 watt, ma non è vero, nessuno esce con 10 watt assolutamente. Mi sono spiegato, ripeto, ci sono tante cose da dire riguardo il cavo, è una cosa non tanto facile anche da digerire, dai, vai fra. Oh Giulio, stai facendo il calcolo del cavo di quella tabella che era da me o i sottomultipli dell'antenna? No, i sottomultipli, i multipli sono i multipli della lunghezza d'onda, non dell'antenna, della lunghezza d'onda. Ogni lunghezza del cavo deve essere calcolato in base ai multipli della lunghezza d'onda, che va calcolato bensì non sulla velocità, sulla lunghezza su 300.000 MHz, bensì un 5% in meno, anche un 4% in meno, che significa 280.000. Noi quando facciamo il calcolo, 300.000 diviso 11 ci dà 11,1, calcolando su canale 20, no? Ma in realtà non è così, perché poi dovremo fare un'altra operazione e fare quello che c'è dato meno il 5%, oppure direttamente fai 285 diviso 11 e ti dà la lunghezza esatta senza bisogno di scalare niente. Mi sono spiegato? Sì, questo l'avevamo già detto l'altra volta, ma io ho anche la tabella che mi ha tutto. No, sto parlando delle antenne, ho sentito sottomultipli. Perché un'antenna per dire della 27 può lavorare in sottomultipli, quindi 7, 14, 21, 28, tant'è vero che la Mantova è una di quelle poche antenne che riceve e trasmette da tutte le parti, se sotto al cordatore, quello stanno dicendo. No, la tabella ce l'ho io. Oh, era una gimbagliato, misura è quello, io ho la K1000 unica discesa, quella misura che c'è nella tabella che mi hai fatto tu, e il cavo è proprio minima perdita. Scusate, dai, io vi saluto, ciao Claudio per rientrato, buon divertimento per stasera e alla prossima, ciao Daniele, ciao Gianni e ciao Giulio, avanti qua. Sì, ciao Fra, dai, fate belle cose, saluta Anna e ci si aggiorna, capito, hai giù, dipende, fai girare. Ok, ciao Franco, alla prossima, dai. Sì, in effetti, ripeto, noi non ci curiamo di queste cose, il primo rispetto sono io, che mi dispiaceva tagliare il cavo, anche perché ho pensato, ma gira, lo alzo, e lo metto più in alto, vuol dire che ce la farò, se no cosa faccio? Se taglio il cavo, a quella altezza rimane l'antenna, quella altezza dovrà essere al massimo. Invece, adesso che è in basso, addirittura ce ne sono un sacco di metri, sono tagliati per tutto il tetto, per cui vedi bene. Interessante che non sia, siccome è un cavo che non accetta una curva inferiore ai 10 cm di raggio, io sto parlando dell'H1000, tu sai benissimo che è un raggio, che è un cavo un po' rigido, non bisogna piegarlo ad angolo assolutamente, deve essere un angolo sempre largo. Cioè, anche se uno lo vuole girare in un angolo, per dire, non so, scendendo al tetto deve entrare nella finestra, per dire, no, non puoi farlo entrare così all'angolo retto, brutto, no, assolutamente, deve avere sempre un arco, un cerchio di almeno, di diametro minimo di 10 cm, perché se lo schiaccia troppo, schiacciando troppo, l'isolamento si appiattisce, appiattendosi la carta si avvicina al cavo centrale, cioè al polo caldo, e lì perde. Ecco cosa intendo, anche quello è importante qua, ripeto, è tutta una cosa che guarda, uno è uno studio abbastanza grande da fare e anche da discutere, però noi non ci curiamo di queste cose, non ci frega niente e andiamo avanti così. Avanti Gianni. Ho sentito qualcuno sotto, stava parlando, non so chi sia, comunque sì Giulio, perfettamente d'accordo, vediamo un po' se c'è qua, avanti chi vuole entrare. Oh, spagnolo e futidini. No, ma infatti io quando tu mi hai dato quella tabella e poi mi hai detto Giulio quel discorso appunto dell'inclinazione di non piegarlo, se vuoi a 45 gradi, il mio entra dritto, c'è la canala attaccata a parete che scende lassù ed entra dritto nella finestra praticamente, non ce n'è curve, capito? Proprio perché è un cavo molto particolare che poi va a fare fare perdita, capito? E sopra e le solite simmetrizzatore e basta. Va bene, Daniele ancora c'è. E chi è? Aiù, fai Daniele. C'ho lo spagnolo che sta arrivando a Santiago Sega. Non ti va fatti nulla, no, di spagnolo. Gli spagnoli bidiani di cultura d'amara che c'hanno. Una l'ha già pigliata, allora tocca Roberto Gallo. E siamo a posto, vero, vado giù. Speriamo, speriamo, che come siamo qui, con gli olandesi oggi. Speriamo bene, che lo sa. Peccato, mi dispiace che non c'era Enzo, perché in questo periodo era abbastanza in forma. Anche se io non è che sono molto simpatizzante dei giocatori tedeschi, però diciamo che in questo periodo stava giocando bene, anche perché finalmente era riuscito ad azzeccare la posizione di Enzo Vessan. Quando hai visto a Cagliari, il gioco in 3-5-2, ti ricordi che alcune settimane fa, quando un paio di settimane fa, noi abbiamo fatto un discorso e ti avevo detto, la Juve per fare un gioco come si deve, deve fare il 3-5-2, quando fa il 4-3-3, ecco che lì a questo punto si perde. Beh, a Cagliari ha fatto quel gioco lì, ha fatto. Poi con la, nella partita successiva la stessa cosa. È a retrocesso in Bruxelles, ma la retrocesso in difesa, da fare da un coso, un terzo terzino. Sicché la difesa era ben coperta così. E non le bastava manco un limone un giorno. Ecco qual è il discorso. Tanto è vero, è riuscita a vincere la grande, ha giocato proprio al Cagliari, praticamente l'ha fatto toccare pochi palloni, poche parole, l'ha preso orientata quasi sul piano del gioco, oltre che i due gol che ha fatto, eccetera. Va bene, dai, avanti a Gianni. Sì, sì, ogni tanto sale e scende, si sente qualche spagnolo qua. Passo passo, però ogni tanto la propagazione, a causa della propagazione ogni tanto qualche passaggio già viene più forte, non so a voi, ma sicuramente a Claudio gli arriva più forte di me, non so Daniele se lo sente. No, io sento qualcuno, c'è anche la Rosa ogni tanto schiaccia e parla. Vabbè, sorvoliamo, va bene. E se parlano dalla zona di Alghero ti coprono a te, perlomeno qua nella mia zona. Quindi pregherei con molta educazione di fare silenzio e se no di spostarsi il canale. Va bene, va bene, ma hai visto la formazione tu Giulio per caso? E allora quando parli, parla quando sei interrogato, hai capito bello bene? Non parlare sopra Gianni, hai capito bello bene, eh? Ragazzuoli, a te sono gli zennimi. Chi è qua? Arrivi, intanto già mi arrivi poco sparato, eh? Valerio D'Alghero, ma io lo riconosco dal bip, capisci? Solo lui mi arriva così, come ha schiacciato, già, nettamente coperto, Gianni, tu immaginate come mi arriva a me Alghero. Ciao Valerio, buonasera, che fine hai fatto? Ma io già ti ho sentito però. Io già ti ho sentito sopra a Gianni, è chiaro, non lo senti, no, Santiago non vede dentro Sassari, figurati se ti arriva l'Alghero, c'è Giulio, Daniele, io, e io vale, va bene, dai. Allora grazie per i saluti, vediamo se senti a Giulio e se Giulio ti ha sentito, avanti, lo senti a Valerio o Giulio? Sì, io lo sento, ciao Valerio, non lo so se tu mi ascolti, perché io sono sempre in condizioni un pochino scarse come antenna, avanti Valerio. Ok, va bene, sì, io lo so, a parte il fatto che io per Alghero sono in una posizione un po' negativa, anzi un po' molto negativa, per cui lo so benissimo. Poi tra l'altro si sta aprendo anche la propagazione, per cui il QRM sale e allora a quel punto hai difficoltà ad ascoltarmi, certo. Anch'io non è che ti ascolto molto bene, ad ogni modo già capisco quello che dici. Ci sono altri due amici qua, io te li mando avanti, ma probabilmente forse riesci a sentire a Daniele, forse, non sono sicuro. Avanti Daniele, prova se ti sente Valerio davvero. Ciao Valerio, salutore, ben ascoltato. Oh, l'hai sentito? Male. Vabbè. Giulio, non dare colpa all'antenna, perché la tua antenna va bene. segnale sempre come quello della Mantova, non ha cambiato assolutamente niente. Ok, Gianni, scusa, ma l'amico di Alghero, Valerio, l'amicone, no, non ti ha sentito, per quello ha parlato sopra di te, capito Gianni? Ecco. Avanti, vai tu per Alghero, vediamo se ti sente. Buonasera, ciao Claudio, ciao Giulio, mi sembra che c'è Gianni e cosa? E... Bah, Daniele. Cappa Valerio, non lo so se Valerio mi ascolta a me. Piccolo e nero, Franco da Sosso, avanti Valerio. E cappa dai, e vabbè, io sono molto più lontano anche di Claudio, poi lui ha una posizione bellissima per Alghero, al contrario di me. Bene, veda, e vediamo un po'. Giulio, buonasera. Non solo per Alghero, non ti dimenticare. Per la Sardegna, dai, lo dico io. Ciao Franco, salutoni per l'ascoltato, sì, per certo. Però il discorso è quello, lo so che l'antenna va bene qua, l'antenna mia va bene, lo so. Non so se può essere pari a paragonata o pari addirittura alla Mantova Turbo che ho, che poi non ce l'ho installata. Magari mettendo nella posizione sua originale probabilmente magari riesco a farmi sentire un pochino meglio. Ad ogni modo anche Valerio qua, nonostante i suoi 300, guarda, ne arriva senza euro 5, non è che ne arriva di forza. Però dipende anche dalla mia ricezione, perché non è solamente la trasmissione, ma è anche la ricezione che è penalizzata per me da Alghero verso qua. Alghero, o Valerio, l'antenna mia è in basso, 1,20 m di palo nel terrazzo, ti puoi immaginare, nella parte bassa 7 metri e mezzo, 8 metri da terra praticamente, che la casa, nemmeno 7 metri la parte alta, ed è più l'antenna, perché ti puoi immaginare, non è molto in alto, per niente. A differenza di prima che ce l'avevo in alto, ma adesso è bassissima. Poi tra l'altro è chiusa anche tra quattro mura. Ed è un prodotto, un po' di cosa che ho fatto, dai, una diciamo così, una ripetizione della Game Master, è un'antenna con un dipolo in verticale, tutto lì, Valerio. Riprendi se mi hai ascoltato. Hai sentito Valerio? No, giù, io ti ripeto, ribadisco, da quando hai quell'antenna e tolto la Mantova, io, differenza del segnale tuo, non ne vedo, ok, lo noto leggermente con i baracchini, ma con 4,40 non lo noto, è sempre quello, 9,20, 9,17, 9, più o meno come mi dai tu, il segnale è sempre quello, quindi penso che l'antenna sia performante, è che quella zona è così. Fra, non mi dire che tu non c'hai una buona zona, per favore, perché il tuo segnale è quanto mi sta arrivando Coso Gianni dentro Sassari, quindi non è che... E chiaramente per Alghero sei di più distante rispetto a me, ma arrivare sette ad Alghero dalla tua posizione è buona, quindi non è che lascia perdere a me che ce l'ho davanti, però è un ottimo segnale, quindi avete tutti buone posizioni, anche Daniele se mette l'antenna sul tetto da via l'Italia, ad Alghero arriva quanto arrivo io sicuramente, perché sono tutte belle posizioni, poi è chiaro, tu hai una posizione più aperta verso il mare ma sei più chiuso verso il settentrione, e io ho tutta la parte appunto dopo le gallerie, Alghero, tutto, Corotorres e tutto, tutta l'altra parte che sono più aperto di te, ma ho più difficoltà nella parte del mare. Ognuno ha la sua zona, le sue posizioni, anche perché tu sei molto più vicino al mare, quindi giustamente io sono dentro città, però per altezza è chiaro che i discorsi sono quelli. Poi dai punti non si scherza, perché nei punti c'ha le posizioni ottime soprattutto per la zona del mare e soprattutto per la zona dopo il mare, quindi è così. Vabbè, dai, riprendi tu Franco di Sassari e fai girare per Gianni, vai. No, Franco di Sassari ha chiuso e ha salutato poc'anzi, io lo faccio girare, poi Franco di Sosa, avanti Franco. Cappa, sì, hai perfettamente ragione Claudio, quello già è vero, perché io sono aperto per questa parte, specialmente per la parte di Santa Teresa, qua, Porto Torres e via. Però Alghero, diciamo, già salto, non arrivo forte, però già arrivo stesso, non è che sono chiuso del tutto. Come Giulio, a quanto pare non riesce a uscire per Alghero lì, va bene, mi sembra che c'era anche Daniele, avanti Daniele. Ecco, salutone Fra, ben sentito, Gava, adesso vediamo cosa succede. Stai chiudendo, Daniele? Cosa? Stai chiudendo? No. Ah, ok, adesso faccio girare per Gianni allora, Sì, Fra. Cioè, siamo una vita in radio, le cose le conosciamo. Io a parte Porto Torres, ma io arrivo nella zona per dire Badesi, Trinità, quelle zone lì, però non arrivo col tuo segnale perché ho una diversa visione praticamente, capito? Tu sei molto più vicino al mare, sei più a vista ottica, come in Giulio lo stesso dagli punti, apre, è molto aperto per quella zona, però su Porto Torres, su tutte le altre parti, arriviamo, chi arriva un po' più alto, chi arriva un po' più basso, ma l'importante è ci sentiamo, ma Valerio ha un problema proprio tecnico, che non può assolutamente rimediare perché c'ha un supermercato sotto dove ci sono dei frighi esterni, dei gruppi esterni, capito? Le creano un sacco di problemi perché lì abita anche una mia parente, ha lo stesso problema, capito? Quindi è un discorso proprio di QRM, come qua a Carbonati, quando io sono arrivato che c'era l'alta tensione della 15.000, non si poteva trasmettere, poi alla fine li hanno tutti e la centrale l'hanno spostata verso via Carlo Felice, se no ce l'avevo qua io in via Milano prima la centrale, immagina già di Dufra. Quindi è tutto un problema di distanze, di casini, ma l'importante è che ci sentiamo, te ne ha fatti nulla. Avanti Gianni, scusa, riprendi. No, tranquilli, cioè io, Valerio, riesco a malapena a percepirlo in mezzo al QRM, ho sentito, insomma, sono riuscito anche a accoppiarlo, ma è proprio passato in mezzo al QRM, però lui chiaramente non mi sente, poi per quello che è successo prima non ci sono problemi, figurati. Quindi vabbè, nel caso sia ancora sul canale, salutalo da parte mia, e niente, va bene così, Claudio, dai, fai girare. No, ma figurati, volontariamente, non ti ha sentito, quindi se ha sentito a me e ha parlato quando ha terminato praticamente Giulio, e quindi ti ha coperto mentre stavi parlando tu, niente di particolare. Va bene, Vale, ti saluta Gianni, che ti percepisce, e già vedi, Fra, vedi, la zona di Gianni, mettendo un'antenna seria, è una buona zona, perché io mi ricordo quando lì in Corso Vico abitava Giulio, aiutami, abitava un cibilli in Corso Vico che aveva l'antenna, chi era? Che era un rompipalle. Francesco. Esatto, Francesco arrivava da tutte le parti e riceveva anche molto bene Alghero, evidentemente c'è qualche varco di apertura lì tra Santa Maria, capito? Passa in mezzo, magari passa in mezzo a Monte Alvaro e non le dà fastidio, no, mentre lì punti, essendo una piana, essendo basso, c'ha proprio il monte davanti e non c'è niente da fare, capito? Però per le altre parti è una zona micidiale, vedi Diabolico come esce da tutte le parti, network, quindi è così. Va bene, allora il cambio per Daniele, che cosa si fa da giù? Poi se sai qualcosa, visto che tu sei sempre lì col tablet, mi aggiorni se com'è la formazione. Avanti Daniele. Cava, no, da me stava arrivando, insomma, discretamente, aveva molti picchi positivi, oscillava dal 7 a 8. Poi no, io arrivavo basso tra virgolette, però già andava bene. Sì, ma è un problema che lui ha di disturbi, perché qua il segnale di Valerio e tutti quelli di Alghero, ma quello di Valerio che mi sa che è l'unico rimasto, è oltre 9.5, quindi è più o meno quanto è Franco, più o meno siete lì tutti e due, dai. E tu fra 6.95 quando il 68 è bello caldo, 6.95 con picchi anche a 9.7, 9.8 e lui è lì, quasi 9.10, insomma, dai, ultimo segnale Valerio. Va bene, Valerio, ti passo il cambio, ci saluti, vai a cenare o sei già andato via, cambio. Cappa, ciao Valerio, abbraccio, ci sentiamo e ci aggiorniamo, vai. Ti faccio salutare da Franco che già lo senti, poi gli altri li saluto io se non ti salutano, insomma, dai, se non li senti. Vai Fra. Ehi Cappa, ciao Valerio, ben ascoltato, dai, dopo tanto. Niente. Guarda, quei negozi fagli sparire e spegnili tutto, o se no glieli bruci quelli, tutti quei frigo, quei condizionatori che ci hanno. Comunque arrivi benissimo qua, arrivi segnali 5 modulati a 7 e radio super 5, bella perfetta. Ciao Valerio, buona cena, buon tutto, ce ne ascoltiamo. Avanti Giulio. Ok, ciao Valeria, non so se mi ascolti, almeno per i saluti, ci sentiamo alle prossime, magari in condizioni migliori, sperando di riuscire a sentirci quando non c'è molto QRM. Ciao di nuovo ancora Valeria, alle prossime. Sì, qua, pensa che va vivo a Santiago 5 a me con i suoi 300 watt, si può immaginare se posso arrivare io con la potenza bassa, assolutamente no qua, sarebbe assurdo, dai, soprattutto in una giornata come oggi che c'è pioggia eccetera, e il discorso è anche quello, no? Però diciamo che possiamo anche migliorare volendo. Avanti Daniele. Cava, ciao Valerio, ben sentito là, le prossimine. Se ascolti, riprendi class. Ok, dai, vabbè, ciao, nuovamente, buona cena, buon tutto, ti ha salutato Giulio, ti ha salutato Franco, Daniele e anche Gianni, dai. Un abbraccio, a presto, sì, giù, tutto quello che vuoi, ma non ti voglio più sentire dire la mia antenna sono in situazione precaria, perché qua c'hai lo stesso segnale, quindi il lavoro che hai fatto è un lavoro ottimo, perfetto e ordinato, è un problema di zona. Quando tu hai il segnale leggermente più basso dalle altre parti vuol dire che è un problema di zona, non è problema l'antenna, che è un casino, 9.17, 9.18, come quando moduli sempre col K e la Mantova, quando avevi la Mantova, io non ho notato nessuna differenza, noto, ti ripeto, differenza quando usi qualche baracchino con poca potenza, allora la vedo la differenza, ma se no col 4.40 non noto nessuna differenza. Avanti Gianni. Eia. Sì, vabbè, l'ho detto poc'anzi, vabbè, sono riuscito a sentire i saluti, va bene. Mi sei invitato a salutare Franco, ciao Franco. Ben sentito, scusami ma tra una cosa e l'altra, vabbè. Vabbè, non è successo niente, tutto a posto. Sì, sicuramente il meteo non ci aiuta quando capitano queste situazioni qua. Vabbè, prendiamo tutto per buono, dai. Poi vabbè, io in particolare sono quello messo peggio, quindi già il fatto di riuscire a sentirlo, insomma, è già va bene. Poi chiaramente con tutte le limitazioni del caso, poi sì, vabbè, c'è Monte Oro, Monte Alfaro, sono sicuro che magari più avanti riuscirò magari a sentire meglio Alghero. Va bene, dai, avanti qua. Sì, ma senza avrei dubbio, non è così, no? Tu immaginati, io quando sono in campagna c'ho un FRG 9006 della Iaesu che so che aumenta la grabba, c'ho un antennino piccolino di macchina su base magnetica e ricevo tutto, capito? Quindi è un problema proprio di zona, è un problema di zona. Stavo guardando ancora domani, la Madonna, ancora domani pioggia, ma non può essere, cioè non si può andare avanti così. Questa storia va avanti sino a sabato, inizia a migliorare la domenica, allucinante. Vai giù. Ok. Sì, anche domani dovrebbe piovere, perlomeno stando al meteo, è così. Stavo dicendo, come formazione abbiamo il primo attacco, dovrebbe essere Bernardeschi e Mandzukic, e Ronaldo. Poi a centrocampo invece c'è Pjanic, Bentancur e Matuidi. Poi in difesa c'è Rugani, perché giustamente non c'è Chiellini, perciò Rugani, Bonucci, lo sappiamo, Alessandro. E poi sulla destra non so se gioca anche Cancelo. Fino a Torra dovrebbe essere in panchina, io vado lì adesso a giocare al posto di Alessandro, ma adesso saremo a vedere stanotte cosa succede. Mamma mia, che formazione brutta, ma sono giù. Che formazione triste. Io al posto di Mandzukic avrei messo a Kenne, oppure viceversa. Adesso vediamo come gioca Bernardeschi, se gioca come ha giocato contro l'Atletico mi sta bene. Si fa la partita che ha fatto la Salì, proprio va di schifo. quindi avrei fatto entrare a Ken tranquillo, e dall'altra parte avrei fatto giocare al posto di Alessandro, avrei fatto giocare Cancelo, Spinazzola. Questa è la mia formazione, il centrocampo può anche andare. Già siamo handicappati, anche per Rugani, e Rugani noi Chiellini, quindi vedrai tu che non sarà una bella partita. Vabbè, avanti Franco. Capo, a proposito di calcio, io non vi so neanche rispondere, perché non, è una cosa che non mi è mai interessata. Capo, Gianni lo sento in mezzo a quel REM, fai qualcosa Gianni, addrizzati, mettiti sulla sedia, vedi tu. Aspetta, aspetta Fra, sto alzando il braccio, dimmi se il sognare è aumentato. Ehi capo, sì, basso basso, molto molto basso. E poco non ti copre il QRM. Avanti Giulio. Ok, vabbè, comunque piano piano già miglioreremo tutti, adesso vediamo in estate di spostarla, non tende a metterla al suo posto originale per vedere di migliorare ancora un pochino. E così farà anche Gianni, sicuramente si attrezza anche lui per l'estate e così si farà sentire anche per il coso, per il 10X, per cui va bene. Sì, e con la voce di sinistra, a questo punto io penso che sarà pensando male di fare il gioco che fa sempre. Il primo tempo così e poi magari a partita iniziata proprio per staccare la partita magari fa entrare anche Ken e chi lo sa, saremo a vedere, vediamo un po', solo che lo sopporto io il 4-3-3, non lo sopporto da questo allenatore, perché il gioco della Juve con quei gli elementi è il migliore in assoluto, è sempre quello con 3-5-2 e per cui no, sempre d'accordo, impara in panchina, senz'altro. Oh, questo è quello che si pensa, poi bisogna vedere se cambia idea lui adesso prima di entrare in campo e se cambia la formazione, ma quello è quello che si pensa, quello perlomeno che dicono i giornalisti, poi vedremo. Avanti Daniele. Ascolta, ma casa a buon prezzo, dove ne trovo di antenna? Chi ce l'ha? Ma 213, guarda, ce l'ha Fusaro, non so se ha riportato la Camille, perché aveva anche la Camille, io ne avevo fatto portare la matassa a 50 metri, ne avevo preso 30 metri io, quindi non so se ne ha ancora via Camille. Poi c'è il 213, quello 1000 morbido, doppia calza col centrale rigido in rame. Però ti ripeto, Daniele, da Fusaro non si può comprare niente, alla GBC non si può comprare niente, te l'ho già spiegato. Ok, se tu ti metti d'accordo con qualcuno che ha bisogno di cavo, ne ordinate una matassa a 50 metri fuori, perché minimo è una matassa a 50 metri, andate a risparmiare un sacco di soldi, capito? Perché Sassari fa veramente schifo, non si può vendere un PL in plastica a 2,50 euro, non si può vendere RG58 a 90 centesimi a metro, Giulio, 90 centesimi a metro l'RG58, l'IBL a 2,50 di plastica. Incredibile, non è possibile, e poi se la mettono quando non vendono. Lo so, la Camille è lo stesso, è a 2,50 è la Camille lì, per cui però fuori costa un po' di meno, intorno ai 2,20 si trova, e 2,50 metri sono un bel po' di soldi, dunque vedi un po'. Così è Daniele. Al limite lì a 1,50 mi sembra l'H155 lì da Fusaro, se ce l'hanno ce la dovrebbero avere, questo ripeto vale anche per Gianni, se un domani ha intenzione di farti un'antenna come ho fatto io, di prendere l'H155 a 1,50 lì da Fusaro è un'ultima antenna, cioè esce un'ultima antenna, esce con l'H155 come ho fatto io. E poi l'ho camuffata, poi, l'ho fatta sembrare la Game Master, perché la bobina l'ho presa e l'ho rivestita con il nastro isolante rosso, così sembra come proprio l'originale, no? Solo che quello dell'originale, purtroppo non è così, però diciamo che va bene lo stesso. Facciamo fare, no? Ti ho messo una stesolante attorno alla bobina rossa, tu non vuoi andare a strada, è sempre la Game Master originale, invece è truccata. Vabbè, dai. Avanti, Daniele. K, c'è stato un break, avanti. Sì, buonasera Franco. Una cortesia, Claudio, per un QTC potresti passare sul 20 ad esempio? No, vai sul canale 14, vai. Perfetto, 14 esecutivo, scusando gli altri, buonasera a tutti. Un secondo, arrivo subito, riprendi Daniele. Ciao Fra, quant'altro, ciao, avanti Daniele. Ciao Fra, ben sentito. Così, non si, un casino, è stato arrangiato, e qua è diventata una giungla. Una giungla, non abbiamo più negozi, quelli che ci sono, insomma, la roba te la fanno pagare un botto. Purtroppo è così, Daniele, purtroppo è qua, è così, e cosa ci vuoi fare? Sai cos'è? Se ne abusano anche, ne approfittano, perché sanno che ci sono solo loro qua, dice se lo vuoi, e così, se no vai e pensano che fai di piani. Se vai pure la TBC è ancora peggio, io su magari dai. Quando ti vende, a quel prezzo a 1,50, 1,80 ti vende l'RG58, ti vende. Per carità, avanti Gianni. Sì, ormai diciamo che non è più conveniente, insomma, per tutta una serie di motivi. Sicuramente avranno le loro buone ragioni, però praticamente diciamo che, insomma, non sono, dovrebbero essere più elastici, visto che l'internet fa questo tipo di concorrenza, dovrebbero essere più elastici e rivedere praticamente i loro prezzi, perché così praticamente con il passare del tempo se oggi come oggi hanno pochi clienti, se continuano ad operare questo sistema non li perderanno praticamente tutti. Dovrebbero essere un attimino più elastici ed essere un attimino più disponibili, perché cioè, io se riesco a trovare quello che cerco con una leggera differenza di prezzo, chiaramente mi fa piacere comprarlo qua a Sassari, però se la differenza di prezzo supera una certa percentuale, è chiaro che, con tutto il rispetto dell'attività commerciale, io chiaramente mi vedo costretto a comprarlo fuori. Purtroppo ci sono alcuni che queste cose non le capiscono e continuano a intestardirsi, quindi preferiscono fare un discorso a corto termine, praticamente accontentarsi del giornaliero, piuttosto che magari fare un discorso a medio termine e tenersi buoni clienti. Quindi è un po' deprimente la cosa, quindi è chiaro che poi la gente si stufa e va a comprare chiaramente su internet. Se ancora non ho capito, vuol dire che insomma, c'è qualche problema. Sì, certo, indubbiamente. Va bene, dai, io adesso intanto ho la formazione completa, Siesini, Cancelo, Bonucci, Rugani, Alessandro, Bentancur, Pianici, Martellì, Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo, è il relatore poi morto di Albiri. C'è da tenere in considerazione che dobbiamo vedere anche Delizzi oggi come gioca il futuro acquisto della Juve, visto considerato che è anche il vantaggio sul Barcellona. Va bene, io vi saluto, grazie per la chiacchierata, scendo a mangiare perché sono già alle 8:30 e accendo subito la televisione, perché si incomincia sicuramente dalle 8:30 a parlare già di quella partita, e alle 9 poi inizia. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Daniele, salutoni, vai Claudio, sei rientrato, sì? No, Claudio si è spostato ancora giù. Buona carica e ben tutto, allora, dai, ci ascoltiamo domani. Vai Gianni per i saluti a Giulio. Sì, vabbè, ragazzi, mi unisco anch'io, faccio correttivo anch'io Grazie per il questionario, saluto Franco, Gianfranco, Claudio, Giulio e tutti quelli all'ascolto sul 10. Un saluto a tutti, ci sentiamo alle prossime. Ok, buona serata e buona cena. Alla prossima, ciao ciao. Ehi, saluto anche a te Gianni, dai, a domani. Se coincide, buon proseguimento. Ehi, Cappale. Ciao Gianni. Ciao Giulio. Buon corretti, buon tutto, dai, ci ascoltiamo alle prossime. Ciao Fra, scusa, mi hai dimenticato di salutare. Ciao, ciao Fra, abbiamo fatto poco questo stasera noi due, perché si è entrato un po' tardi, vabbè, alle prossime, dai, sarà migliore la prossima volta. Ciao, ciao Fra, ciao a tutti, chiudo. Cappa, dai, non ti preoccupare, non devo fare niente, ciao, ciao. Ah, Franco! Cappa, va bene Daniele, con me. Com'è? Ogni tanto mi guardo quella buona anima della radio. A capire cosa può essere. Va bene, già la mandiamo dal dottore tra un po'. Capo, sempre il problema ci sta dando. No, quella ormai è defunta. Cavolo, sta andando in ricezione, ma schiaccia la portante, ma non va in trasmissione. Beh, gli ho cambiato un relè e un transistor, adesso quell'altro pezzo dove non si agganciava, quell'altro relettino, lo stacca modifica e si aggancia, però un passo avanti l'ho fatto, ma si è KO. Beh, allora c'è problemi, falla aggiustare, già falla rivivere. Mettevi il cuore nuovo. Ah, se facciamo il trapianto, lì sarà attesa, lì sarà attesa. Per carità, quanti anni, il CUP quanti anni ti ha dato di attesa? Il CUP, vieni quando vuoi, basta che trovi un passaggio per portarmela. Capo, allora fuori la devi portare. Cosa, Fra? Fuori la devi portare. No, è qua in Sardegna. No, fuori non le spedisco, guarda, se la porto fuori è portarla io a mano personalmente. Capo, sì. Se non ce n'è uno a Olbia, mi sembra in quella zona, o a Cagliari, giù. Non ce ne sono tanti qua che le sistemano. Però mandarle in continente è un suicidio. Quando è da sistemare tanto quanto, ma quando te la spediscono già sistemata, che prendono e te la smallottano, mi si girano estremamente le scatole. Posso? Avanti! Allora raga, scusate, ci avevo un info con Gianfranco, io vi saluto. Grazie alla compagnia, due chiacchiere e tutte cose. Beh, è pronta la cena, sono già le 8:30 passate, così ci sediamo sotto il tavolo. Ciao Daniele, ciao Gianni, ciao Giulio, ciao chi c'è? Non me ne metto più, ciao anche a te Gianfranco, e sei qua. Un saluto circolare a tutti, anche a quelli che sono in ascolto. Chiudo, a domani, ci sentiamo, e sempre forza Juve. Avanti Giulio. Giulio ho fatto QRT e ha salutato a tutti, anche a te. Ok, ci siamo rimasti solo io e Daniele. Avanti. Ciao Fra, scusa, ciao. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo domani. O se coincide magari più tardi. Ciao, ti prendi Daniele. Ciao Cla, come ti saluta Giulio e ti saluta anche Gianni, però l'hanno già chiuso. Riprendi Fra. Cappa, saluto anche a Franco di Sassari, ben ascoltato. Cappa, vi saluto di nuovo, grazie dei saluti di Giulio e di Gianni, se coincide più tardi se no domani. Ciao, passo e chiudo. Ciao Claudio, buon proseguimento, a domani, dai. Dai, probabilmente Franco ha chiuso, bene vera. Va bene, dai Daniele. Ce la riascoltiamo, chiudo anch'io, vai, magari dopo, più tardi, se coincide, salgo, va. Già va bene, già sono qua, dai, lascio acceso. E oggi dopo tanti anni ha lavorato questa radio, ha lavorato seriamente, mi ha fatto fare un giretto, e va bene. Ok Fra, dai, buona carica e buon tutto, dai, alla prossima, dopo se coincide. Va bene Daniele, per me, se per spedirla quella lì, non ne vale la pena, guarda che non ne vale la pena, quei soldi che ti prendono te ne compri una nuova. No, no, io non spedisco niente, fra. C'è uno qua in Sardegna, la porto io di persona, come a un modo, la faccio vedere. Tanto l'ho spiegato un po' come l'antifona. Mi dice, ci vuole questo e questo, la spesa è tot. Se gioco vale la candela, la sistemo, se è una fesseria. Ma se di più ho altre cose, tolgo tutto, la faccio normale, me la vendo. Capo, va bene così allora. Sì, perché a volte spendiamo quanto, di più, anzi, non quanto, di più di quella che costa nuova una radio buona. Capito? Va bene. Ciao la mia, buonanotte. K. Rogero, ciao fra, buon proseguimento, dai, salutami a Sorso. Ciao, ciao. Ciao, ciao.